È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui, 18:33, inizia la zanzara, caro Parenzo, con l'esplosione del caso Formigoni, indagato per corruzione. Per me, te lo dico subito, di certo nella vicenda Formigoni si tratta di indagini, la voglio ricordare, di indagini. Di certo nella vicenda Formigoni non ci sono quello che titolano oggi tutti i siti, 8,5 milioni di euro per 15 delibere, che è l'accusa. Di certo che cosa c'è? Rapporti opachi negli appalti regionali, e parlo di rapporti opachi e di nient'altro di penale. La comunicazione sbagliatissima del governatore fino adesso, in questo periodo, diciamo, di turbolenza. E poi c'è un'evidenza, che la vicenda Vendola, che è certamente di dimensioni minori per quello che riguarda l'importanza, ma è comunque una richiesta di rinvio a giudizio, oggi occupa uno spazio molto ridotto sui quotidiani, molto molto ridotto. Sentiamo Formigoni su questo. Io voglio rivolgere le più vive congratulazioni, se non a tutti voi, alla stragrande maggioranza di voi, per l'equanimità e l'equilibrio con cui avete trattato la questione del rinvio a giudizio del mio collega Nichi Vendola sulle vostre edizioni di oggi. Soprattutto trasmettete le mie congratulazioni ai vostri direttori. Ho visto che praticamente nessun quotidiano ha trattato la notizia in prima pagina, anzi i principali quotidiani hanno trattato la notizia dopo pagina 15 con dei sobri articoli, tre colonnine, quattro colonnine, molto equilibrati. E questo è Formigoni. Devo dire che su questo sono assolutamente d'accordo con Formigoni, non al 100, al 200%, baciamo, ma su questo facciamo le mani a Bossia, dottor ma che Cruciani. C'entra? Che c'entra? Ma che stai... Baciamo le mani. Ma che cosa stai dicendo, scusami? Baciamo le mani. Ma cosa stai dicendo, scusami? No, come si dice in Sicilia, baciamo le mani. Ma che c'entra mani adesso, imbecille? Che cosa c'entra? C'entrerà. Cosa c'entra, scusa? Come saluto introduttivo, baciamo le ma mani. Che cosa c'entra? Baciamo cosa c'entra? Saluto al direttorissimo. Ma cosa c'entra? Spiegami cosa c'entra. Hai fatto il tuo pippone iniziale spiegandoci le ragioni per cui Formigoni non avrebbe nulla, come dire... Io non ho detto nulla che riguarda l'inchiesta, perché si tratta di indagini e potete leggere tutto. Quindi, dove vi pare. Io ho detto due cose. Solo una cosa. Dimmi una cosa. Da sì. Oggi in poi, sì. Da quando gli è arrivato, sì, quello avviso di indagine, che non, sì, significa essere colpevole di nulla, ma da oggi il signor Formigoni... Che era già indagato, peraltro, comunque. È un indagato, formalmente, e allora? L'ha ricevuto. Dunque? Qualsiasi cosa dica è viziata dal fatto che, essendo indagato, vuol dire quello che... Vabbè, sei pare. Pazzo, sei completamente pazzo. Va bene, allora, abbiamo, archiviamo la pratica Parenzo, la pratica pazzia, archiviamo la pratica pazzia di Parenzo. Una persona indagata, ho... Ma cosa c'entra? Non ho capito cosa c'entra, spiegami. C'entra che, allora, se parliamo, ma cosa di politica, c'entra? Sto parlando delle responsabilità politiche di Formigoni. Va bene, lascia perdere. Io, ti archivio per un attimo, perché non è il caso, stai parlando di cose che non esistono. Ci sono altre chi, ma non so, sì, ma non so di cosa parli. Dice, ma non so di cosa stai parlando. E dice qualunque cosa. Va bene, d'accordo, dice qualunque cosa. Io stavo ragionando di un'altra cosa, ma tu non hai capito, come al solito. Andiamo a parlare di alcune con i giornali dentro, l'abbiamo detto, di alcune chicche del Partito della Rivoluzione di Sgarbi, che è meglio, di alcune chicche dal Partito della Rivoluzione. Il reato di Minetti, sentite. I soldi buttati nel processo di Milano su cose che non esistono, perché la Minetti potrà essere inadeguata a fare il consigliere comunale, potrà essere antipatica, potrà fare dove, ma cosa potrà aver fatto oltre che darla? È un reato darla. Allora io devo dire che sono stato in concorso interno molte volte, potrei essere incriminato anch'io, perché ne ho delle date ne ho prese. Curioso scontro, cominciamo bene, su Rai 3 tra Giovanardi e Ingroia sul tema droga. Sentiamo una prima parte, Ingroia versus Giovanardi. Ai processi cognitivi. Il proibizionismo dell'alcol, perché l'alcol fa molti più vittime dal punto di vista medico. L'uso moderato dell'alcol fa bene alla salute, l'abuso fa male. Allora c'è una bella differenza fra l'uso delle sostanze, una pasticca di ecstasy ti ammazza. Io non sono un difensore delle droghe, però allora, io credo che su questa cosa bisognerebbe avere un approccio. Anch'io, infatti io rifiuto di paragonare il mezzo bicchiere di Lambrusco a pranzo con le droghe. E poi Ingroia ribadisce: condivido Saviano sulla legalizzazione della droga. Condivido il passo di Saviano rispetto all'effetto e all'impatto che avrebbe ogni forma di legalizzazione, se non liberalizzazione. Lo spettacolare ministro Clini, Corrado Clini, a proposito in visita ad un'azienda, dice: siamo dei coglioni, proprio così, e non vinciamo mai le gare europee, mentre i tedeschi se le confezionano da sole e fanno vincere le aziende tedesche. Corrado Clini, siamo dei coglioni, stupendo. Qualcuno lo critica per la comunicazione, per me invece è da esaltare al massimo. Anche i tedeschi fanno i tender europei, ma normalmente vincono sempre società tedesche. Invece noi facciamo i tender europei, perché noi siamo dei coglioni e vincono il giapponese o quello che è. E infine uno Giannino alla Borghezio: l'Italia non conta un cazzo, meglio andare altrove. Ma io perché devo rimanere a fare contribuente di un'Italia in cui non conto un cazzo? E non c'è nessuna possibilità di dire nemmeno una volta ogni 5 anni che bisogna cambiare dal basso. Ma tanto vale andarsene a pagare le tasse meno, più efficientemente, altrove. Briatore torna sulla diatriba del billionaire. Di Liberto, il segretario del Partito dei Comunisti Italiani, è matto da manicomio, sentite. Dice: preferisco andare al billionaire, però imbottito di tritolo. Ma cioè, uno così lo deve prendere e portare al manicomio. Cioè, uno così è un matto, perché non ha neanche rispetto per la gente che c'è. Che c'è questo odio sociale, perché Di Liberto, io vorrei sapere quanti posti di lavoro ha creato nella sua attività. Ma la frase più bella di oggi è di Paolo Poli. È di Paolo Poli. Beh, certo, il Briatore fa l'imprenditore, fa pubblicità, certo. Fa pubblicità a se stesso. Quando dice abbandonerò la... Può darsi, ma fa l'imprenditore, non fa il... Ma non c'è criminalità, è genialità. Sì. Paolo Poli, stupendo, sull'Espresso. Senti qua. Ho sempre saputo che il bello dell'omosessualità è di acchiappare e scappare. È il nostro modo di essere più vicini alla natura. I cani non si mettono l'anello d'oro, si montano e poi vanno via. Paolo Poli contro il matrimonio gay. Frase terribile invece quella di Licio Gelli a proposito della strage di Bologna. Beh, frase molto forte da parte di Licio Gelli. È venerabile. Un mozzicone di sigaretta che è stata lanciata e ha provocato il surriscaldamento. Da questo sarebbe stata provocata la strage di Bologna nell'82. Io credo sia stato un mozzicone di sigaretta che è stata lanciata, quindi c'è stato un surriscaldamento ed è esploso. Ma abbiamo il primo ospite del giorno, ve lo presento con quello che ha detto oggi alla Camera a proposito di Ingroia. Sentite, oggi alla Camera. Vorrei ricordare, sorridendo, all'Ingroia che si presenta come delfino di Borsellino, che certamente Borsellino lo stimava, ma che non sopportava che Ingroia nel suo ufficio, al posto del crocefisso, ma cosa c'entra il crocefisso, o del Presidente della Repubblica del tempo, ci tenesse Che Guevara. Va bene, la devo chiedere. Ci tenesse Che Guevara. Onorevole Mannino. Allora Ingroia è un politico. Le devo chiedere di chiudere. Di quel processo. Grazie. Anche qui ci sono state critiche per il linguaggio usato da Mannino, che è il nostro ospite. Buonasera, onorevole Mannino. Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Allora, baciamo le mani, onorevole. Ma cosa c'entra baciamo le mani? Ma perché devi, ma non è un modo di Mio dire siciliano che rappresenta no. una allegoria ridicola, cioè no. Va bene, baciamo d'accordo. Perché chiedi a Mannino, che Sicilia conosce benissimo le cose. Mannino, vuole rispondere lei a Parenzo, risponda lei. No, non gli rispondo per niente. Non risponde per niente. Ecco, bene. E con questo abbiamo chiuso questa vicenda del baciamo le mani, questa vicenda ridicola del baciamo le mani. Perché sembra una cosa offensiva, in verità esiste. No, è una cosa offensiva, ma se vuoi offendere, offendi pure. Ma non offendo nessuno. Vabbè, ma se vuoi offendere, offendi pure, non è un problema. Cioè, siamo qui anche per offendere ogni tanto. Ma il metodo è leggermente diverso, però. Comunque, onorevole Mannino, com'è che l'ha presa questa storia di Che Guevara? Me lo spieghi? Facciamo che la sappia da tanto tempo. Eh beh, no, adesso ce la spiega, perché è stato un passaggio detto in Parlamento, eccetera. Se io le dico che me l'ha raccontata nel 1991 Paolo Borsellino, lei ed altri direte: Mannino presenta rapporti suoi con Borsellino per difendersi oggi. No, allora, non mi ricordo chi me l'ha detto. Vabbè, lei, tra l'altro, la cosa di Borsellino, credo ma che oggi che è assolutamente autentica. No, no, ma infatti non la metto in dubbio. Sa perché l'ho detta? Perché l'ha detta? Perché bisogna che gli italiani sappiano che Ingroia non è un magistrato che esercita le funzioni del pubblico ministero, è un politico che utilizza le funzioni del pubblico ministero per colpire secondo i criteri, le ragioni e la strategia della sua ideologia. Ah, cioè lui, i suoi atti non dipendono, come dire, dal codice o dai suoi... Guardi, se lei con pazienza si mette a guardare le carte che hanno depositato per questo processo e mi intentano, lei si renderebbe conto che Ingroia e il suo compagno Di Matteo non sono comportati da pubblici ministeri obiettivi vorrei dire, non dico olimpici, ma sereni, ma da politici. Ma quale da sarebbe politici, la tenenza di Ingroia? Cioè, Ingroia in tutto il giro della sinistra del resto non ne fa un mistero, no? Scusi un attimo, però Mannino, le voglio chiedere una cosa. Torniamo all'inizio, alla domanda che le avevo fatto. Borsellino non sopportava, lei ha detto che Ingroia aveva questo manifesto di Che Guevara invece del crocifisso e dell'effigie del Presidente della Repubblica. Ma guardi, ho ricordato che Borsellino aveva stima di Ingroia, però anche in ragione delle politiche di Borsellino non gli andava a genio che Ingroia avesse alle spalle un bellissimo manifesto di Che Guevara. E la differenza qual era? Che Borsellino, pur avendo delle convinzioni politiche, non si faceva, almeno secondo lei, non si faceva, come dire, condizionare da quelle. Invece Ingroia sì. Un grande magistrato che ha esercitato sempre le sue funzioni con obiettività, senza farsi mai condizionare dalle proprie preferenze ideologiche e dalle convinzioni politiche. Ma le preferenze ideologiche di Ingroia quali sarebbero, al di là di un punto? Sono tutte quelle che stanno a sinistra. Sì. Quella sinistra, tra l'altro, magmatica e vorrei dire così, anzi, meno composta rispetto a 20 e 30 anni fa. Adesso è una sinistra che non è eversiva, non è certamente terroristica. Ma insomma, se il sistema scricchiola da tutte le parti, non vede come sempre ripete, guardi. Cioè lei dice non è eversiva, non è terrorista, però? Non è eversiva, non è terrorista? Per dimostrare di essere un magistrato che colpisce dovunque, lui colpisce, dice di colpire a destra e a sinistra. Ma il punto non è colpire a destra e a sinistra. Il punto di un magistrato, di un pubblico ministero, è rispetto a fatti gravi, cercare la verità. Senta, ma lei ho capito benissimo. C'è il traffico. Le voglio chiedere una cosa, ma il fatto che adesso va in Guatemala, lei è contento? Cioè, un bene per l'Italia? Guardi, no, è una cosa sulla quale non rispondo. È una scelta personale. Non ha senso che io la commenti. Ma se dice che è un magistrato imparziale. Se dice che è un magistrato imparziale che fa politica, sarà contento che sarà contento che va in Guatemala. No, ma guardi, se io dicessi che sono contento che se ne va in Guatemala, qualcuno potrebbe dire è contento perché se lo toglie d'addosso da pubblico ministero nel processo. No. Perché pensa, quello, no. Perché pensa a quello che potrebbe dire la gente della sua risposta? Risponda, le do questo suggerimento, per carità, come si sente di rispondere? Perché veda, io rispondo come sento di rispondere, ma devo tenere conto delle reazioni che le mie parole, le mie opinioni possono esercitare. Allora, se io dico sono contento che se ne va in Guatemala, certamente alcuni diranno hai visto così. Siamo qui, 18.48, 800 24, 0024, nostro primo ospite Calogero Mannino, ex ministro democristiano, c'è stata una richiesta di rinvio a giudizio per la questione molto complicata della trattativa Stato-mafia, un intervento molto forte oggi alla Camera dallo stesso Mannino, prima ho detto strage di Bologna 1982, naturalmente la 1980, mi confondevo con un'altra cosa. E chiedo ancora a Mannino, dunque lei non vuole arrivare fino alla conclusione del suo ragionamento, se lei pensa che Ingroia sia un magistrato imparziale che fa politica dovrebbe essere contento che va in Guatemala, però non lo vuole dire oppure non lo pensa, non lo so, però no, allora ripeto, io sono convinto che Ingroia è un pubblico ministero non sereno, non oggettivo, che è dominato da una passione politica e ideologica. Sì. Punto e basta. Lei si sente perseguitato da Ingroia? Certamente, certamente. Ma lo definirebbe un giudice comunista? No, guardi, se comunista significa la tradizione di Togliatti sino a Berlinguer e poi quelli che si sono travasati nel PD. Ma no, quella è la tradizione comunista che io da democristiano ho avversato, sì. Ha rispettato, perché era incardinata in regole e valori. Ingroia è uno di sinistra, cioè alla sinistra del Partito Comunista di allora. Alla sinistra dei... Infatti, quando c'era ancora il Partito Comunista, nel 91, lui era Che Guevara. Cioè un extra parlamentare. C'è una sorta di rivoluzionario, una cosa di questo tipo. Finalmente c'era, la vita, sono riuscito a farglielo dire. Un extra parlamentare e un extra istituzionale. Quindi cioè, ai tempi del Partito Comunista farebbe il terrorista? No. Era un extra istituzionale ed extra parlamentare. Non ha scelto di fare il terrorista, quindi io non posso dire questo. Sì, ho capito. Tutti quelli che amavano e seguivano Che Guevara sono stati anche capaci di fare i terroristi. Sì, ho capito. Cioè, diciamo che usa i metodi della Ingroia, non ha fatto il terrorista, ha fatto l'extra istituzionale. Ho capito. Diventato un cardine importante, sì. Magistrato dell'accusa, si serve delle istituzioni per progetti extra istituzionali. E quali sarebbero questi progetti istituzionali? Scusi, i progetti extra istituzionali quali sarebbero? Ma lei si faccia una domanda e se la facciano tutti gli italiani. È possibile portare in processo Provenzano e Riina? Sì. Con Moro, Mori e Subranni che li hanno arrestati. Sì. Poi con Mannino politicamente è il protagonista della svolta della Democrazia Cristiana del 1983, quella svolta politica che ha messo fuori la Democrazia Cristiana Vito Cencini. Vabbè, ma insomma, quale sarebbe questa? Ingroia, no, a lei deve ascoltare. No, Ingroia, no, io sto ascoltando. Ingroia si è andato a scegliere il figlio di Cencinino come icona dell'antimafia. Ma si rende conto che è ridicolo. Sì, ma al di là del fatto della ricostruzione del come si è arrivato al processo, eccetera, quali sarebbero i fini extra istituzionali di Ingroia? Dimostrare che la politica tutta, la politica tutta è squalificata e compromessa. E dunque poi entrare in politica lui? Ecco, veda, probabilmente questo è il suo vero obiettivo. Il suo obiettivo non è l'incarico dell'ONU, il suo obiettivo è entrare in politica. Ho capito. Senta, io voglio chiedere una cosa. Dell'Utri, qui proprio da noi alla Zanzara, ha detto che lui è in Parlamento in sostanza per difendersi meglio dai giudici. Cioè è andato in Parlamento, non gliene frega niente di stare in Parlamento, ed è in Parlamento, l'ha detto in maniera molto chiara, trasparente, perché in questo modo può difendersi meglio da un attacco giudiziario. Ecco, per lei è la stessa cosa? Per me non è così. Io sono tornato in Parlamento dopo 12 anni, quando il primo processo si è concluso con la mia assoluzione. Sì. Allora nel 2006 ho accettato di essere candidato. Sì. Sono spiegato. se non fossi stato assolto non sarei entrato in Parlamento. Io sono rientrato in Parlamento per le mie convinzioni politiche, sì, e vorrei dire per quel dovere, sì, un uomo che ha vissuto esperienze così difficili, sì, anche rispetto ai giovani professare. Mm, mm. E del resto, guardi, la crisi politica italiana attuale. Ma non è che si vuole ricandidare lei, Mannino? Guardi, per la verità, io avevo già deciso da tempo, in ragione del mio tempo, in ragione della mia stanchezza, sì, e in ragione di qualche altro problemino, perché poi la salute, tutte queste cose bisogna anche... Perché lei si era preso un cancro tempo fa, no? O sbaglio? Esattamente. Ma non è che adesso Ingroia gli ha fatto tornare un altro tumore, no? Pure questa forza lei gli vuole attribuire. Ma che ne so, lei così è una battuta naturalmente, però che no, ne so, magari ha paura. L'ho vista oggi alla Camera molto, molto, no, molto... No, stia più calmo, molto battagliero, lei per carità, ha la sua età, insomma... Io so, se vuole parlo il linguaggio che a lei certamente piacerà. Oggi ero incazzato. Lo so. Ma sono incazzato perché sono addolorato, capito? Perché io non merito il sospetto di Ingroia. Io sono un uomo che ha affrontato il 1992 con serena fermezza. Io non ho avuto paura, io non ero l'unico politico che era nel mirino di Cosa Nostra. Lei come si sente rispetto a Ingroia? Rispetto a Ingroia, come si sente? Io sono un gigante. Un gigante rispetto a Ingroia? Un gigante morale, sì. Sono un gigante morale, perché ho fatto la mia battaglia politica quando era estremamente difficile, anche nell'interno della Democrazia Cristiana. Cioè lui è un piccolo uomo rispetto a lei? No, lui si avvantaggia soltanto della sua posizione di magistrato. Cosa vuole? Però non se la prenda troppo. Oggi l'ho vista alla Camera molto, molto battagliero, molto, si era proprio quasi. Allora mi ripeto, oggi ero incazzato perché sono addolorato, offeso dall'ingiustizia di questa accusa. Va bene così? Onorevole Mannino, ma come mai non è andato al 20° anniversario di Via D'Amelio, vista anche la stima e l'amicizia che lei ha sempre avuto nei confronti di Borsellino? Il sentimento che io porto a Falcone e Borsellino per una ragione di opportunità. Era già annunciato che su di me c'erano in corso delle indagini. Lo ritiene, vorrei dire, esteticamente... Ma se lei non ha nulla da temere, come ha detto... Io le posso dire una cosa. Lei ha l'orgoglio della sua storia, poteva andare lì con il libro rosso di Borsellino a fianco al fratello a dire io sono innocente. Lo sa che io sono d'accordo col fratello di Borsellino quando agita il libro rosso. Perché? Perché sono convinto, per esempio, che uno dei temi di indagine seria è quella strage, la gestione delle indagini di polizia è tre processi. Ho capito benissimo. Il Di Matteo, compagno di Ingroia, ha gestito come pubblico ministero i tre processi di Caltanissetta. Ho capito. Dopo 15 anni apprendiamo che sono tre processi. Ma insomma, formati. Mannino, si vuole ricandidare o no? Io non ho capito bene. Ma no, le ho detto chiaramente che io avevo già deciso. Aveva già deciso, adesso? No, ma perché dovrei cambiare opinione, decisione? Perché dovrei cambiare decisione? Eccoci qui, la Zanzara riprende 19:16 dopo il tuffo nella Prima Repubblica con il signor Calogero Mannino, che ha detto sono un gigante rispetto a Ingroia, ho una statura morale nettamente superiore. E beh, ancora siamo qui, siamo ancora qui. È ancora a casa, Emo. Sì, siamo ancora qui, caro Dell'Utri, se lei consente, se lei permette, siamo ancora qui. Sei ancora a casa, Emo? i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersaglio. Appello di Francia e Spagna, attuare subito le misure anticrisi. Bruxelles, massima accelerazione, spread ancora sopra quota 500, borsa in positivo. Il governo smentisce l'ipotesi di blocco delle tredicesime, voci che creano grave allarmismo. Lanci, in qualche comune a rischio gli stipendi di agosto. Da Monti, leader della maggioranza, Bersani, la situazione è grave, massima allerta nelle istituzioni. Alfano, sostegno al governo fino al 2013. Si tratta sulla legge elettorale, ma le posizioni restano distanti. Il PDL spinge per le preferenze, ma per il PD la proposta allontana l'accordo. D'Alema al TG3. Svolta nell'inchiesta sulla sanità in Lombardia. Formigoni indagato per corruzione aggravata. Il presidente: non ho nulla da temere, resto al mio posto. Cartella clinica forse manomessa per nascondere l'errore che ha ucciso il neonato al San Giovanni di Roma. 20 indagati, sospeso il primario. L'esercito di Assad in forze ad Aleppo contro i ribelli, bombardamenti a tappeto e migliaia di persone in fuga. La Turchia chiude le frontiere con la Siria. Parenzo, pare che uomini vicini a Nicole Minetti abbiano depositato un marchio. Sì. Abbiano depositato un marchio Bunga Bunga Condom, No. Sì, sì, Bunga Bunga Condom, ma non li leggi i siti tu quotidianamente, no? Ho fatto quello impressionato, ce l'ho davanti la notizia, ce l'ho l'iPad Bunga, davanti. Bunga Bunga Condom. È un no, come dire, no. I preservativi targati Bunga Bunga, sembra, però nel corso della puntata... Ha fatto bene, in fondo, no? Una grande iniziativa imprenditoriale, questa sera naturalmente cercheremo di approfondire la questione. Peccato che lei sia ancora un consigliere regionale pagato con i soldi pubblici, quindi... Vabbè, ma questo... questo non c'entra, ma si può fare tutto ormai. No, depositare qualsiasi marchio. Beh, certo, sì. I marchi si possono depositare, poi dovesse iniziare un'attività imprenditoriale, bisogna vedere naturalmente, no? Giannino lascia tutti un po' ancora in suspense tra qualche giorno. La mia sorpresa sui giornali, l'unica sorpresa, caro Oscar, è che devi candidarti tu direttamente. Sarebbe questa l'unica vera sorpresa, non queste cose, l'annuncio sui giornali. Candidati, dillo chiaramente, voglio battermi in prima persona per un'Italia migliore. Tutto ma nell'offerta fuffa. Politica bisognerà farlo. Tra qualche giorno la sorpresa di cui vi parlai 12 di luglio la vedrete stampata sui giornali, ma per il momento mi fermo qua. Lo spread, ma per il momento non è risalito, ma siamo sempre sopra i 530. Appuntamento a domani contro lo Stato ladro e tassico dipendente. Ingroia in Guatemala, più sì che no. Non vai in Guatemala, in Groia? Beh, domani il plenum del GSM dovrebbe decidere invece di sì, dovrebbe darmi il via libera, quindi è più sì che no. Il teatrino da Casa Vianello di Facci Lusenti a in onda. Ah, questo non voglio sentire. Senti, senti, senti. Senta, io cambio argomento, si fa per dire, perché qua, allora... Si tentava di parlare del fatto che appunto in Spagna e non ancora in Italia, insomma, ci sono dei sommovimenti sociali, insomma, di un certo tipo. Si tratta di capire se non ci sono ancora. Qualcuno infatti si chiede perché non ancora in Italia. Posso fare una domanda, certo. Natascia? Grazie. Era una postilla. No, ho capito, ne stai facendo parecchie. C'è un po' di eccitazione nell'aria. Beh, saranno una quarantina. Volevo chiederle, giacché... Giovanardi contro un'ascoltatrice, contro una non so che cosa, a proposito della droga. Senti, senti. Se lei ritiene di drogarsi è una sua scelta, sottolineiamo soltanto che è un veleno e i giovani o meno giovani che fanno uso di questo veleno hanno dei danni fisici che l'ordinamento non può permettere. Signor Giovanardi, allora io lascio le droghe leggere e ricomincio a fare uso di antidepressivi, tranquillizzanti, sonniferi e antidolorifici. Mi dica che cosa cambia da essere sotto effetto di tutti questi medicinali con ricetta medica legalmente. Facciamo. E cosa cambia essere sotto effetto di marijuana? Una spina nel fianco, fastidiosa realtà, una macchia. Proviamo a chiamare Villa Wanda? Proviamo a chiamare Villa Wanda, Villa Wanda. Mi rimetti al mondo qui col signor Gelli. Questo perché è venerabile, poi non ho mai capito io. Aspetta, Sì, ho venerabile. Giovanni da Napoli. Buonasera. Dica. E niente, parlavamo per quanto riguarda l'episodio ieri di praticamente di questo. Parlavamo chi, scusi? Io sono stato chiamato per quanto. No, lei non è stato chiamato da nessuno, ha chiamato lei, ma non ho capito la cosa di Corona. Quando si parlava ieri di Corona, si parlava che era stato fermato in merito a un controllo e come tale non aveva la possibilità di dimostrare ciò che dichiarava. Allora? Noi nel nostro centro di ricerca abbiamo messo questo. Ma chi se ne frega? Cioè, dei centri di ricerca, Corona, i trasferimenti di Corona, non è un problema nazionale. C'è un piccolo problema. Forse o lei non è informato oppure io sono capitato al momento sbagliato. Decidiamoci. No, comunque... mi dica, allora? Allora niente, se mi sono stato chiamato al telefono in merito all'episodio di ieri, lei mi dice queste cose, c'è qualcosa che non funziona nella comunicazione. Allora, Giovanni, non ho capito che cosa ha brevettato lei. Allora, abbiamo brevettato un piccolo occhio magico che registra continuamente per 15 giorni tutto ciò che accade in macchina. Perciò se l'amico Corona, il signor Corona, fosse stato dotato di questo aggeggino, sicuramente non avrebbe avuto i problemi di essere fermato e portato al commissariato. No, però scusi, evidentemente non vuole farsi registrare, caro Giovanni. Cioè, non vuole farmi registrare. No, ma non lei. Il signor Corona non vuole che i suoi spostamenti vengano monitorati, registrati. Ma è personale, guardi, entra nella privacy, non è quello che dice lei. Va bene, Giovanni, guardi, si rivolga direttamente a Corona, li scriva sul suo sito internet così lo informa di questa possibilità. Renato da Milano. Buonasera, dottor Cruciani e dottor Parenzo, non so se è dottore il signor Parenzo. Buonasera, caro, buonasera. Sì, buonasera. Allora, facciamo le mani prima di tutto perché in Italia va di moda, mi sembra. Ma non va di moda, chi lo dice che va di moda? Scusi Renato, chi lo dice che va di moda? Baciamo le mani. No, con tutte queste indagini, mafie, robe... Ma non so. Vabbè, allora? Passiamo avanti. Allora, io sarei per la liberalizzazione di tutte le droghe, perché è inutile che le ha in mano tutta la criminalità, le deve in mano. Si sente anche dalla voce, diciamo. Non si combatteranno mai, cioè. Questo è uno. Liberalizziamo anche i gay. Sì, che non è liberalizzazione, è legalizzazione, sono due cose molto diverse. Voce, comunque. Allora? Lei fa uso di droghe, signor Renato? Sicuro, signor Renato? No, voglio dire, chi fa uso la trova, cioè va dove vuole, in piazza e la prende, non c'è nessun problema. Quindi almeno che la dia lo Stato è una via buona e che dopo quei soldi... La dia buona. La dia buona è il linguaggio tipico di chi comunque, vabbè, poco male. No, vabbè, perché c'è tanta droga tagliata male, la gente muore anche. Ma lei fa uso di droghe, su, caro Renato, lei fa uso di droghe, diciamo la verità, ma non c'è niente di male, non c'è niente di... No, non faccio. Poi dica la verità, qualche canna se la fa. In Guatemala abbiamo dato tutti questi politici qui, vecchietti, dopo i 65 andiamo tutti in Guatemala. È d'accordo su questo? Ma no, non sono d'accordo. No, comunque quella battaglia su chi è che sta facendo lei, secondo me mi sa di un po', cioè perché lei la vuole far fare alla sinistra questa battaglia, no? Giustamente, ma noi in Italia siamo ancora arretrati su queste cose. Vabbè, questo è abbastanza chiaro. Una battaglia così perde clamorosamente perché in Italia si iniziano a dire che vuol dire. Non lo so, vedremo. Renato, lei non me la racconta giusta, non ci vuole confessare quello che si può confessare tranquillamente. Ogni tanto faccio uso di sostanze stupefacenti, dica la verità. No, perché mi dice questo? No, così è un'impressione. Perché dalla voce è tornata a parlare, non so, lei. Adesso mi offende così. Ma no, che offende? No, le ho detto che non è una può cosa. Capitare? Cioè, non è mica una cosa scandalosa. No, però diciamo dai, che tanto le droghe le venderanno sempre, non si combatteranno mai. Cioè, è contento lei. È inutile, è una battaglia persa. No? Va bene. Sì, no, ma io sono d'accordo con lei. Grazie, Renato. Massimo da Como, buonasera. Buonasera, grazie. Dica. Una lamentela, naturalmente, è facile lamentarsi di lei. Ossia, ce l'ho con lei quando intervistava Mannino e attaccava Ingroia, e il povero Ingroia non aveva nessuno che lo potesse difendere o quantomeno contro ribattere. Ma qui non, qui non usiamo il bilancino noi, Massimo, in questa trasmissione. Ma quello ce ne siamo accorti che è un organo del PDL ormai. No, organo del PDL sarà a casa sua, Massimo. No, si sbaglia di grosso. Organo del PDL sarà a casa sua. Ma a casa mia non di certo. Ecco, allora non dia a questa trasmissione l'organo del PDL perché è una roba ridicola quella che sta dicendo. Ma forse ridicola è più lei. No, lei sta dicendo una cosa ridicola, Massimo, ridicola. No, patetica e ridicola. Dica che non la apprezza. No, io trovo più ridicolo lei. Una cosa patetica e ridicola. Lei è patetico e ridicolo. Le cose che dice, naturalmente. Le cose che dice. Una parola, se tanto ce l'avrebbe comunque. Io penso le stesse cose di lei. Buonasera. Pazienza. Mario da Catania. Che battaglia. Buonasera, Cruciani. Organo del PDL. Abbiamo provocato talmente tanti casini nel PDL che ci mandano a quel paese ogni giorno. Organo del PDL. Cruciani, io avevo chiamato tempo fa quando c'era l'onorevole Italo Bocchino. Sì. Vabbè, ma adesso perché dobbiamo continuare a parlare di Bocchino? Scusi, signor Mario. No, era solo un inciso, così, tanto per la cronaca, perché siccome lui è abituato a pontificare sempre sugli altri, no? Lui pontifica sempre dall'alto del suo nulla per cento, lui pontifica. Vabbè, in tutte le però oggi che c'entra Bocchino, scusi? No, e purtroppo io volevo chiamare l'altra volta e non ci sono riuscito, mi dia solo 10 secondi e poi non la disturbo più. Ma no, non disturba, però perché dobbiamo parlare di Bocchino oggi? Lo so, perché mi piaceva parlare di Bocchino, che ce l'ho proprio nel cuore. Ce l'ha nel cuore, vabbè. Allora... No, siccome lui chiede le dimissioni di chiunque sia nelle case degli altri, no? e si dimentica dei suoi, perché voi, per saperlo, lui ha un senatore che è stato condannato a 2 anni e 2 mesi in primo grado, ma sarebbe? Non ha chiesto mai dimissioni. Chi sarebbe? Il senatore Nino Strano. Non me lo ricordo, sì Nino Strano, me lo ricordo benissimo. Quella della Mortadella. Ma non mi ricordo i due anni e due mesi per che cosa, scusi? È stato per abuso, no, adesso di preciso. Ecco, sia più preciso, perché io non me la ricordo questa condanna. È stato condannato in primo grado al Tribunale di Catania, potete controllare. Vabbè, poi controlleremo, allora? Sì, no, ma era solo per questo, siccome lui pontifica su tutti quanti, si dimentica di pontificare sui suoi. Vabbè. Prima ognuno, i politici in genere, dovrebbero chiedere prima le dimissioni dei suoi. Cioè dei suoi senatori, dei suoi. Va bene. Invece di andare a cercare quelli degli altri. Grazie Mario. Siamo qui, Diego da Salerno, 800 24 00 24, microfoni aperti alla Zanzara questa sera fino alle 21, non molliamo, noi qui presenti, vivi e vegeti fino al 3 agosto, poi si vedrà. Diego da Salerno. Buonasera. Dica. Volevo dire, non capisco perché sono un paio di giorni che lei sollecita i suoi ospiti a fare dichiarazioni denigratorie contro il dottore Ingroia. Io non sollecito nessuno, faccio il mio mestiere, se lei l'ha capito bene, se non l'ha capito alzo le mani, pazienza. Va bene, però sarebbe il caso pure di rendere più chiaro che in questo paese c'è gente che da 20 anni non fa uscire fuori la verità sull'omicidio Borsellino e sulla trattativa tra lo Stato e la mafia. Benissimo, questo quindi... abbiamo una cosa arcinota, cosa vuole, che la ripeta 100 volte? È arcinoto che non si è una... Quando si parla con Dell'Utri, quando si parla con Mannino, queste cose forse vanno rese più esplicite. E che vogliamo fare? Un trattato di 1 ora e mezza sulla trattativa Stato-mafia? Che dobbiamo fare, Diego? Cosa dobbiamo fare? Sicuramente qualche domanda un po', non, ovviamente non ci dobbiamo sostituire alla magistratura, però ecco, qualche appunto. Domanda un po' che pungolasse su questi punti io l'avrei fatta, noi però tiriamo... è una scelta. No, ma lei può fare tutte le domande che vuole, cioè, dipende anche, bisogna anche considerare le risposte che dopo uno può dare, e dunque nel soppesare queste due cose, siccome la trasmissione non dura 50 minuti con un ospite, facciamo le nostre valutazioni, insomma facciamo il nostro mestiere. Diego, se lei pensa di saperlo fare meglio, pazienza. No, cioè, per amor del cielo. Si accomodi pure. Non è un problema. Comunque non pigliamo di mira Ingroia, guardi, non si preoccupi, caro Diego. Non abbiamo, anzi, è stato anche nostro ospite 2 volte, 2 o 3 volte. Non abbiamo nessun motivo per prendere di mira Ingroia, tutt'altro. Marcello della provincia di Piacenza. Buonasera Cruciani. Pronto? Dica. Allora, volevo ricordare, non arriva le connoggi del Mannino, che è troppo comodo citare le persone defunte in quanto non possono né confermare né smentire. Lui cita giustamente lui, dice che gliel'ha detto Paolo Borsellino, ma guarda caso gliel'ha detto una persona defunta. Comunque, detto questo, ho capito, non ha rivelato chissà che cosa. Ha detto che a Borsellino non piaceva il fatto che Ingroia avesse, quando era giovane, forse ce l'ha ancora, non lo so, nel suo studio, nel suo ufficio, l'effigie di Che Guevara invece del crocifisso della foto del Presidente della Repubblica. Ha fatto una rivelazione clamorosa Mannino. Beh, insomma, adesso non esageriamo. Beh, no, parlando della famosa agenda rossa, dicendo che le indagini dovevano concentrarsi anche su quello. Beh, questo detto da lui è una cosa interessante, perché nessuno mai... Comunque, volevo aggiungere, scusate se vi interrompo, perché poco fa Mannino ha parlato, ha citato il sostantivo gigante, se non sbaglio, giusto? Si sente un gigante. Rispetto ad Ingroia, sì. Rispetto ad Ingroia, sì. Vabbè, se si riferiva, se voleva riferirsi alla parola pezzo da 90, E allora io sono perfettamente d'accordo con lui. Cioè? Con questo chiudo. E non ho capito niente, scusi, Marcello. E dico, se con la parola gigante si riferiva alla parola, al sostantivo pezzo da 90, in quanto personaggio di grande levatura e tutto il resto, sono d'accordo con Mannino. No, dice che rispetto a Ingroia si sente di un'altra statura morale, una statura morale allora, molto elevata. Morale, ho capito. Un attimo solo. Pronto? Giusto, va più avanti? Sono Valerio, sì. Ciao, sono Parenzo, la Zanzara, Radio 24. Oh cielo, e che c'entriamo noi? Beh, ciao Valerio, sono Cruciani. Intanto ciao. Complimenti per le battaglie fatte. No, ma no. Che cos'è questa cosa dell'intervista che è uscita? Scusa, Giusva. È una finta intervista, è un'intervista che non esiste, che non è mai stata fatta. Cioè, una cosa che tu non hai mai pronunciato quelle parole, perché sono parole nei confronti del signor Bolognesi, uno può dare tutti i giudizi che vuole, però sono parole molto dure, naturalmente, rispetto alla morte della suocera, o no? Ma io non ho fatto nessuna intervista, io ogni tanto incontro qualcuno che mi chiede di fare interviste e io al 99%, a meno che non si tratti di persone che portano degli elementi nuovi sui quali discutere, io dico che non faccio interviste su sentenze passate in giudicato, le sentenze si rispettano. Sì. E io ricordo questi ragazzi 2 anni fa ai quali ho detto che non volevo fare nessuna intervista perché loro volevano fare un pezzo di colore. Sì. E i pezzi di colore a me non interessano. Dunque, fammi capire bene, no, perché è importante è vero che questa intervista non esiste né in audio né in video, questo è certo. Esatto. Dunque, si sono presentati da te e tu hai detto che non volevi fare intervista, dopodiché oggi escono queste frasi: Bolognesi ha perso solo la suocera, ha perso la suocera, avresti detto, come dice un mio amico, la suocera non è una vera perdita. L'hai pronunciata questa frase, sì o no? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo e non ho fatto nessuna intervista. Poi in un dialogo in cui si può parlare di qualsiasi cosa, in un dialogo tra persone, in una dichiarazione ufficiale queste cose. Ma non è quello che pensi, però. Cioè, evidentemente potresti averla detta in un dialogo tra persone, ma quella non era un'intervista ufficiale. Ma io rifletto di solito sul fatto che il nostro è un dialogo tra sordi, perché noi non ci parliamo mai. I nostri sono scambi di anatemi e credo di aver spiegato loro che è inutile avere ogni anno un ennesimo scambio di anatemi. Fino a quando non riusciremo a parlare di cose serie con più calma, questo scambio di anatemi io non lo voglio, come dire, alimentare. No, questo certo, ma questo che abbiamo fatto. Questo è difficile, però, anche ricordarsi di una cosa di 2 anni prima, questo è chiaro. Però siccome vengono riportate virgolettate, queste frasi non le possono virgolettare. Io non ho fatto questa dichiarazione davanti a nessun microfono e davanti a nessuna telecamera. Non hai fatto questa dichiarazione, però mi hai detto prima, non me lo ricordo, cioè può darsi pure che parlando con loro questa frase l'hai pronunciata. Non mi interessa, se io parlo con un giornalista e parlo della Roma, della Lazio, di quello che mi pare, sono un libero cittadino e parlo di quello che mi pare. Vabbè, ma è chiaro che poi viene riportato, però, perché non è affatto chiaro, se ti dico questa non è un'intervista, non è un'intervista. No, questo è chiarissimo invece, cioè se uno dice l'intervista non ve la do, poi parla così, diciamo, senza sapendo che quella non è un'intervista, è evidente che... Ma tu lo pensi che lui ha perso solo la suocera e dunque non è, diciamo, un vero parente delle vittime, eccetera? Io penso un'altra cosa, penso che il dolore in questa storia c'entri molto poco, penso che siano altre le valutazioni, penso che si faccia molta politica, molta polemica e che non c'entrino affatto i sentimenti. Cioè, tu dici Bolognesi è ispirato da altre cose e non dal fatto che ha perso la suocera? Scusa, non ti sento. No, dico, tu dici Bolognesi è ispirato non dal fatto che ha perso la suocera, ma da altre cose. E credo da altre cose. Noi parliamo sempre di altre cose con Bolognesi. Bolognesi parla di politica, parla di complotti, parla di tesi sue personali. Ma è uno che ha perso un parente, però, sia esso suocera, nonno, comunque ha perso un parente il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime. Certo che ha perso un parente, si è costituito parte civile e ha contribuito a una condanna che io ho scontato, che ho sempre rispettato, contro la quale non ho mai fatto né uno sciopero della fame, sì, né mai immagini di vittimismo. No, ma al di là di questo, Giusva, noi adesso non entriamo nel dettaglio della cosa. È curioso il fatto che due anni dopo esca una roba con cui alcuni giornali danno anche grande rilevanza, giornali online, certo, e in particolare Repubblica, per alcune frasi pronunciate da Gelli all'interno di questa stesso, certo, di questo stesso documentario, in cui ci sono dei virgolettati, tu dici io non ho mai pronunciato queste frasi, o comunque, certo, non ho mai rilasciato un'intervista ufficiale, certo, però poi dici effettivamente Bolognesi non sta cercando la verità, ma è un partigiano, fa operazioni. Questa frase l'hai detta? Queste frasi ma l'hai detta? Sono 30 anni che noi discutiamo di questa cosa ed è il motivo per cui io non ne voglio parlare. Noi non stiamo cercando di approfondire, non c'è nessun approfondimento, stiamo ripetendo, è una pantomima da 20 anni, sì, stiamo dicendo sia io che lui, purtroppo. Che succede? Questo profilo che su questo ogni volta cercano di costruire un pezzo di colore. Questo è un pessimo servizio al giornalismo, alla verità, alla coscienza civile del paese, a me, a Bolognesi, a tutti. No, ma ripeto, puoi chiedere, dire, poi quella è la cosa che ripeto, mi interessa è sapere se questa frase "ha perso solo la suocera", la suocera non è una vera perdita, è una frase che tu hai pronunciato. Questo allora, è... non credo, perlomeno non in un contesto offensivo, in un contesto di riflessione. Mentre io ricordo che avevo uno scontro con Secci, ma Secci aveva perso un figlio e quindi in qualche modo lui era giustificato nel suo odio molto, molto feroce. In altri casi mi sembra di capire che ci sia più una prevenzione ideologica che non un vero dolore. Cioè perdere un figlio e perdere la suocera sono due cose diverse, dici? Assolutamente diversa, anche perché se ricordo bene le perizie, poi la suocera non è affatto morta nella strage. È una delle persone rimaste ferite, morta molto tempo dopo. Quindi è una riflessione sul fatto che alcune persone non vogliono ragionare. Allora, mentre mi ricordo Secci, il suo predecessore, secondo me era giustificato, perché io credo che chiunque di noi di fronte allo sfracellamento di un figlio sia autorizzato a non voler ragionare, una persona alla quale semplicemente qualche anno dopo la strage, per i postumi del dolore e dello stress è venuta meno la suocera, probabilmente non parla in nome di un dolore incontrollabile, parla in nome di altri sentimenti, di altre cose, ma questa è una mia riflessione. Ideologia, tu dici, soprattutto ideologia. Cioè, gli affetti sono affetti, però certo un figlio è diverso, ma gli affetti sono comunque sempre affetti. Poi, ma questa è una riflessione che lui fa, la mia riflessione è su chi di noi è autorizzato a dire delle cose senza ragionarci. Io credo che alcune persone siano autorizzate, lui no, siano giustificate nel dire cose senza ragionarci. In altri casi sono mosse solamente, solo dall'ideologia. Valerio, scusami, solo questo ti voglio dire: vista la tua nuova vita, il tuo impegno in Nessuno Tocchi Caino, la tua anche sensibilità che mostri in questa straordinaria battaglia, abbiamo detto, no, per dirgli che però questa cosa qui è una battuta che dimostra poca sensibilità rispetto a una persona che ha perso sia essa la suocera, un fratello o anche un parente di terzo grado. Ma lui fa una riflessione sui motivi che animano la battaglia di una persona, Bolognesi, una riflessione su questo, non sul fatto che uno non possa provare dolore. Di battaglia che dobbiamo rispondere da 30 anni di una cosa che non abbiamo fatto ed è una battaglia che noi portiamo avanti, credo, con una certa discrezione, senza vittimismo, senza urla. Un'ultima cosa, Giusva, ma non so se hai letto questa frase di frase di Gelli, quella sul mozzicone di sigaretta, che ne pensi? È vecchia, l'ha già detta 30 anni fa, o è un messaggio in codice, perché assomiglia molto a quello che con molti ragionamenti in più diceva Cossiga. Cossiga ha fatto un ragionamento molto più complesso, molto più interessante, probabilmente molto più vicino alla verità, non così banale. Cioè, ma che vuol dire? Il messaggio in codice, che cosa vuol dire? Cossiga ha... No, Gelli, messaggio in codice, che vuol dire? È un messaggio in codice nel senso che Cossiga ha detto probabilmente quello che è successo a Bologna è un incidente dei palestinesi che noi abbiamo coperto perché c'era un accordo fatto a suo tempo da Moro ed era opportuno che questo accordo rimanesse segreto. Quindi, così come Cossiga ha detto, è stato un incidente tra virgolette, Gelli, senza conoscere forse tutti gli antefatti, senza avere la scienza diretta di Cossiga, che poi ha allegato dei documenti, ha portato dei telegrammi ricevuti dall'OLP e da altre cose, ha detto la stessa cosa. Anche perché non si può credere che abbia detto che un mozzicone di sigaretta, un incidente sul riscaldamento, dice, è sicuramente un messaggio in codice. È un messaggio in codice per dire che è stato un incidente coperto, perché rivela un accordo che non è, di cui non era opportuno parlare. Va bene, grazie Giusba, grazie a voi. Buona serata, ciao. Dove andiamo? Andiamo a Treviso, Stefano. Che succede? Che cos'è questo rumore pazzesco che sento? Un rumore pazzesco, chi è? Da Parenzo, chi è? No, io sono... Stefano, mi sente? Io l'ho detto perfettamente. Vada. Dentro un fonsera. Ho letto oggi sul sito del Corriere che Formigoni è stato indagato per corruzione. Sì. Sul sito del Corriere chiaramente si vendicano un po' del fatto che sono stati prima a pubblicare la notizia, e corredano la notizia con un po' di foto di lui in Sardegna, in una villa, in un panfilo megagalattico di 50 metri, eccetera, eccetera. Dunque, io dico che lui è il classico esempio dei politici corrotti italiani che hanno rovinato l'Italia. Sì. E da vostro fedele ascoltatore mi aspetto che insieme sosteniamo la candidatura di Oscar Giannino. Ma che cosa c'entra, scusi, la vicenda di Giannino con quella di Formigoni? No, vorrei capire. Giannino ce l'ha a morte con tutti i politici che hanno mandato a remengo l'Italia, e lo spread va su per questo motivo qua, e per cui è giusto sostenerlo, e mi aspetto che voi lo facciate. No, però scusi un attimo, continuo a non capire il legame tra la vicenda Giannino e la vicenda Formigoni, me la spiega? Perché Formigoni è il classico esempio del politico che Giannino vuole condannare. Ma io non credo proprio, non penso che Giannino vuole condannare alle ghigliottine il signor Formigoni. Cioè, magari non ha grande simpatia politica, non lo so, non mi interessa. Ma perché dovrebbe condannare Formigoni, scusi? Il fatto che non faccio l'interprete di Giannino, ma mi dica. È l'esempio di quella classe politica che Giannino vuole condannare, vuole osteggiare, e per cui se è vero quello che lui dice è giusto sostenerlo. Perché quella è l'unica strada che abbiamo per venire fuori. Continua a non capire il legame. Andiamo a Roma da Marco. Buonasera. Buonasera. Dica. Volevo dire che la democrazia è una bellissima cosa, però per reati come lo spaccio della droga, non l'uso, sottolineo lo spaccio. Lo spaccio, sì, mi lo dica. Lo spaccio della droga, che lo metto insieme alla pedofilia come i peggiori reati che ci sono. Sì. Secondo me andrebbe applicata la pena di morte. Benissimo. Diretta televisiva, rete unificate. Così diretta gli passa la fantasia di fare queste cose. Bravo, signor Marco. E poi dove andiamo a finire? Siete mai a voi, per benissimi e ben pensanti. Sì, per benisti pensanti, sì. Certo. Invece lei si sente bravo, si sente forte, si sente figo. Fino allo spacciatore di droga che usa le difficoltà di un ragazzo giovane per fare del vanno soldi. Messi vanno condannati quando ritenuti colpevoli dopo regolare processo e mandati in galera, punto e basta. Non vanno condannati a morte, caro Marco, caro Marco. Comunque, se le piace la pena di morte, per carità, va benissimo. Ci sono negli Stati Uniti degli stati che la adottano ancora, certo. Posti civili comunque, io combatto la pena di morte, non ne faccio però una battaglia di quelle, no, contro la pena di morte, naturalmente nei paesi democratici. Detto questo, non capisco il senso di questa battaglia, cioè secondo lei diminuirebbe la pedofilia o lo spaccio di droga di fronte alla pena di morte? Faccio un'altra domanda, ma lei è contento di pagare le tasse per sfamare un pedofilo che sta in galera? Ma che c'entra, ecco, Marco? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Mi dica cosa c'entra? Come no? C'è una bella differenza. Ma uno paga le tasse per tutto, anche per queste cose qui, anche per un sistema carcerario. Paga le tasse anche per questo. Allora lei le fa piacere pagare le tasse per mantenere gli ergastolani, non so, in generale le fa noi piacere. Uccidiamo tutti i detenuti, allora ammazziamo tutti direttamente, no, cioè, no, dall'ergastolo in su ammazziamo direttamente, così no, almeno abbiamo meno persone. C'è una differenza tra un omicidio fatto per rabbia, magari per un gesto di rabbia, che merita l'ergastolo a vita, però tra virgolette c'è una leggera attenuante che è la provocazione o qualsiasi altra cosa, ma un omicidio gratis come può essere la vendita di droga o l'abuso su un bambino di 5 anni non c'è paragone, quello deve essere tolto dalla circolazione. Sì, va bene Marco, guardi, sul fatto che sia una cosa schifosa siamo d'accordo tutti, purtroppo abbiamo idee diverse per quello che riguarda la punizione. Lei vuole, non so a quale stato, a quale realtà vagheggia, di quale realtà parli. vuole la pena di morte, io voglio un processo, carcere, il più lungo possibile naturalmente per questo tipo di reati che lei ha elencato, soprattutto per la pedofilia, dopodiché siamo qui. Luciano da Udine. Niente, io volevo parlare del, perché tempo fa qualcuno si lamentava che lei intervista delle persone che hanno avuto dei problemi con la giustizia, che sono pedofili o nazisti, io sono d'accordo che voi intervistiate queste persone, perché è molto importante sapere cosa pensano. Sì. Guardi, noi abbiamo chiamato Fioravanti per un motivo molto preciso, non l'abbiamo chiamato per fare l'apologia del terrorismo, cosa che peraltro non farebbe. Oggi un libero cittadino, cioè, ma no, ma lasciamo perdere adesso il giudizio su Fioravanti. Abbiamo chiamato Fioravanti per una cosa precisa, per quello che è uscito oggi, frasi che gli sono state attribuite sul presidente dell'associazione familiari Strage di Bologna, punto. Pronto? Sì. Ha capito o no? Ho capito, e quindi mi va benissimo. Cioè. Le va benissimo. Luigi da Verona. E allora che cosa ha chiamato a fare? Scusi. No, per confermare, perché tanti si lamentano di quelle interviste delicate. Ma no, ma lasci perdere quelli delicate. Che si lamentano, Luciano, la ringrazio. Lasci perdere quelli che si lamentano. È giusto lamentarsi anche. Ci chiamino, si lamentino e noi rispondiamo. Funziona così. Il dibattito della trasmissione. Benissimo. Giusto da Pescara. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Luigi da Verona. Buonasera. Dica. Guardi, io il mio intervento arriva troppo tardi. Avrei voluto intervenire quando c'era il signore che intervistavate, il signor terrorista, si può dire, no? Sì, sì, tranquillamente. Sì. Ex terrorista, comunque. Ha ammazzato un sacco di gente. No, no. Vittima per sempre. Sì. Questo signore ha ammazzato un sacco di gente, sì, è vero. Allora, mettete in chiaro, prima di intervistare, chi è questa persona. Ci sono molti ragazzi giovani che mi seguono e non sanno la storia di questa persona. Sì. Quanto è credibile, diciamo, enunciare... e chi stanno ascoltando. Altrimenti... Allora, caro Luigi, Luigi... No, questa è una cosa che indigna, a me non mi frega niente. E lei sarà indignato, per carità, si indigni pure. Mi fa schifo questa persona. Va bene, le fa schifo. Sono vittime ancora e non sono ex vittime. Allora, stia calmo, guardi, non avrà mai pagato la pena che gli aspetta. Sì. E prima di intervistarlo, dite chiaramente chi è, che sono di fronte a un baia. Sì, vabbè, stia calmo, Luigi, stia calmo. Allora, se dovessi, Davide, fammi far rispondere a me. Allora, caro signor Luigi, le voglio dire una cosa. Noi abbiamo chiamato Giusva Valerio Fioravanti. E per elencare i reati che ha commesso Fioravanti dovremmo stare qui una ventina di minuti. Per una cosa molto precisa, per alcune frasi che avrebbe detto sulla strage di Bologna insieme a Licio Gelli in un documentario, punto e basta. Io so punto. Benissimo le strade che e allora basta, punto. Ma tutti non sono informati e pazienza, si informino, non è che la radio è fatta, non è vero, si informino, vadano su internet e facciano Giusva Fioravanti. È un programma pubblico e lo deve rendere conto. Senta Luigi, io le persone le presento come mi pare, ha capito? Non deve essere lei a dirmi come presento le persone, ha capito o no? A certi reati, se uno non ha la coscienza di dire chi è, va meno a fare certe trasmissioni, ha capito? Ma questo lo dice lei, io decido come presentare queste persone, il modo in cui farle entrare nella trasmissione lo decido io, ha capito sì o no? No, non ha capito. No, è lei che non capisce. Questi signori, lei li spalleggia questi signori. Ma che spalleggio? Lei non ha capito nulla, Luigi. L'ho chiamato su una vicenda molto precisa, non per fare il riassunto della sua vicenda giudiziaria. Luigi, non ha capito niente lei. Non ha capito nulla lei. No, è che non ha capito nulla. È perso il rispetto delle vittime. Ma che c'entrano le vittime? È appunto di questo che stavamo parlando, contestando a Fioravanti la frase che avrebbe pronunciato, ha perso solo la suocera, il signor Bolognesi, peraltro l'ha quasi confermata dopo, nella discussione che abbiamo avuto. No, ha detto che era una chiacchiera informale e che poi si è usata da lui. Come, scusi? Di questa persona che avete intervistato prima non comprerei nemmeno una bicicletta usata. E chi se ne frega? Neanche a me non me ne frega di quello che ha detto, però dovete ricordare Io non ricordo nulla, io ricordo, ripeto che per ricordare quello, ogni cosa che ha fatto una persona che intervistiamo, dovremmo passare una quindicina di minuti e non mi va, ha capito? Non mi comunque va. È Giusto Fioravanti, condannato per la strage di Bologna, autore di numerosissimi reati, ex terrorista, protagonista di una terrorista, come dice lei, protagonista di una stagione che è quella del terrorismo nero, punto e basta. Per il resto, per i dettagli, per il resto delle cose, vada su internet. O andate su internet e vi informate nel dettaglio. Luigi, ha capito? Dopodiché, però, si può, cioè, qui dire... non è che facciamo, non è che siamo alle voi inchieste. Avete perso dei grandissimi punti, non dicendo all'inizio chi era questo personaggio. Vabbè. Ok, Luigi, ho capito. Lei si è arrabbiato per questo. Ci sta, ci ha chiamato. Stiamo combattendo. Noi ribattiamo. Lei conferma che dovevamo dirlo all'inizio. Arrivederci e grazie, Gianluca. Una volta che l'abbiamo detto, possiamo anche dire una, posso dire anche una cosa in più? Sì. Che magari si arrabbierà questo radioascoltatore. Sì. Cioè, il fatto che il signor Fioravanti sia stato condannato con sentenza passata e giudicato per la strage di Bologna e ha fatto 26-28 anni di carcere. Oggi, adesso lo farò arrabbiare ancora di più. No, maestro, quella... non devi entrare nel dettaglio, no, e difendere che Fioravanti, che non ce ne non ne bisogno. Una persona, comunque, è una persona diversa da quella. Ma non lo so, me ne frego di questo. Non entrare in questo dettaglio. Cosa c'entra che entri in questo dettaglio una persona diversa? Anche se fai lo psicologo, fai. No. E allora, è un dato di fatto, ma è un dato di fatto cosa? Non mi interessa. All'associazione Nessuno Tocchi, ma non me ne frega niente dell'associazione Tocchi Caino. No, perché dice non si deve intervistare, non si deve... Nel ma merito aveva anche detto delle cose da dire, perché nel merito c'era questa cosa da chiarire di questa sua dichiarazione che gli era stata attribuita. Nel merito di oggi. Allora, il vostro amico Giusba dice, un ascoltatore scrive, ha ucciso un carabiniere di 19 anni con un colpo alla nuca a freddo. Sì, d'accordo, primo non è non nostro amico perché non lo conosco, primo. Secondo, sì, benissimo, lo ha ricordato lei. Certo non lo ricordo io prima di introdurlo, perché, ripeto, per elencare tutti i reati che ha commesso ci metterei 4 ore. Ma nessuno fa l'elogio di Fioravanti. Poi, ma poi nessuno l'ha fatto. Di cosa stiamo parlando? Nessuno ha fatto l'elogio delle cose terribili che ha fatto Fioravanti. Ma Giusto da Pescara, buonasera, signor Giusto. Giusto? Non c'è, Nicola da Mantova. Niente, Luigi da Verona l'abbiamo sentito, Nicola da Mantova. Luigi, c'è ancora? Mi perdo, sto entrando in un tunnel. Allora? Sto lasciando l'Italia, però sì, mi dispiace, signor Cruciani, perché mi creda, mi piace, avrei preferito che da lei, prima di iniziare l'intervista di questo signore, ricordarsi chi era. Senta Luigi, però noi non siamo una trasmissione qualunque, che capito, prima di introdurre Cruciani, una persona, Luigi, le altre trasmissioni, dove? Prima di introdurre una persona, fanno, buonasera, presentiamo il signor Tot ha fatto questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ha fatto ancora quest'altro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, noi non facciamo così, facciamo in un altro modo, a lei può piacere, non può piacere, non mi interessa. Cioè non mi interessa, mi interessa, registro, però vado avanti per la mia strada lo stesso. Ci è andata di lusso. L'ho sempre detto, ringrazio i bolognesi perché hanno esagerato talmente tanto che alla fine veniamo chiamati a rendere conto solo di una cosa che non abbiamo fatto e non di quelle che abbiamo commesso veramente. Quindi veniamo perdonati per le cose che abbiamo fatto davvero, perché nessuno in fondo ci pensa, e discutiamo invece dall'infinito di un'altra cosa che è un paradosso. Cioè, dice una cosa anche, vuol dire, coerente col suo personaggio. Dice, noi veniamo ricordati per la strage di Bologna, per la quale ci proclamiamo innocenti, ma non veniamo ricordati per i tanti reati che abbiamo commesso. Lui ha ammesso tutti gli omicidi precedenti e sempre negato quello. Comunque, al di là di mi viene voglia veramente di richiamarlo ancora, guarda. Un altro che scrive, sguattero intellettuale, un altro genio, presidente dell'Ordine Mondiale dei Giornalisti, un tale Giuseppe, su Fioravanti avete fatto un grosso errore, direi anche di carattere giornalistico. L'ascoltatore ha ragione. Ha parlato il genio del giornalismo italiano. Quale sarebbe questo? Vi querelo per banda armata, sei una merda, spero che gli ultimi 20 minuti della Zanzara siano esaminati dall'Ordine dei Giornalisti, scrive un altro genio dell'umanità. Avete infangato le vittime di Bologna, Parenzo e Cruciani a casa, lui ha infangato le vittime di Bologna, vabbè, ma insomma siamo al delirio. Guarda, richiamalo. No, infatti mi viene voglia di richiamare Gianluca da Padova. Buonasera a tutti ancora. Dica. Io abbandonerei il terrorismo perché è un argomento abbastanza importante da affrontare diversamente, credo. E tornerei alla tua prima intervista, quella di Mannino. Sì, ci diamo del tu noi? Beh, se vuoi mi do del tu. No, pensavo che ci dessimo del lei, comunque va bene. Se è del lei, io non ho ancora dato del tu, io do del lei o del tu secondo quello che lei mi dice. Decidiamo così, mi dia del lei, su. Del lei, benissimo, perfetto. Dopo l'intervista a Dell'Utti e a Mannino, vorrei sapere qual è il prossimo uomo d'onore, spero che sia Rino o Provenzano. Scusi, lei perché, perché magari definisce... Magari si potesse intervistare Provenzano, magari. Perché definisce... Magari. Scusi, perché definisce... Uomo d'onore? No, perché sì, esatto, perché definisce perché Mannino, no, Mannino un uomo d'onore? No, mi spieghi, perché definisce... In determinati ambienti si definiscono uomini d'onore. No, guardi, è una cosa diversa questa cosa qui. Perché lei definisce il signor Mannino, che è stato assolto per concorso esterno? Sì, dopo due condanne è stato assolto. Ma che cosa cavolo c'entra che è stato assolto dopo due condanne, Gianluca? Quando conviene è colpevole anche dopo la prima condanna. Senta un attimo, lei è molto bravo a fare la trasmissione ed è no, molto io bravo. No, non c'entra niente, bravo, non bravo. Come credo, spero che non ci riesca. Perché allora, definisce uomo d'onore Mannino? Perché definisce per uomo me è un uomo d'onore. Perché lei per non capisce mafioso, niente. Anche se è stato assolto al terzo grado, ma condannato per ben due volte, per me è un uomo d'onore, per me rimane mafioso. Per lei rimane mafioso, benissimo, questa è la cultura che lei ha. Uomini d'onore che sono stati uccisi, bravo, come bravo, abominio bravo. Giuridico il suo abominio, abominio proprio. Ma non c'è mica nessun tipo di problema, io bravo, dico la Gianluca, mia come voi dite la vostra, bravo. È stato assolto, se lo metta in testa, è stato assolto. Anche perché in questo momento ci sono persone, magistrati, che uno abbandonerà, ahimè, l'Italia per andare a fare un lavoro importante all'estero, che hanno messo la loro vita, la loro faccia per condannare, per aprire degli spiragli che fortunatamente qualcuno è riuscito ad aprire, da questa sporca mafia. E uomini d'onore invece e amici degli uomini d'onore hanno perso la vita perché erano mafiosi, ne ricordo uno su tutti, un certo Lima. Ma cosa c'entra, scusi, cosa c'entra? Lei ha dato... Sono amici, lei ha dato... di Mannino, sono amici Ciancimino, amici di Lima. Di, ma lei mette tutto nel calderone, lei mette uomini tutto... d'onore, lei uomini d'onore. Va bene, lei chiami uomini d'onore chi vuole, guardi, se le piace così, se è soddisfatto così, se si sfoga molto. Così, se è un uomo frustrato per altre cose, si vuole sfogare. Vabbè, in questo la famiglia, modo. Chiedo scusa. No, se è una persona che si sente frustrata per qualche cosa, no, deve dare dell'uomo d'onore a una persona che è stata assolta, faccia lei, faccia come gli pare. Certo, indubbiamente. Faccia come gli pare. Francesco dalla provincia di Venezia, buonasera. Buonasera, mi chiamo Francesco Pontelli, tessera giornalista 078283. Punto 1. Sì, ma sì. Perché date dei coglioni a tutti? Ma chi siete voi? No, io non do dei coglioni a nessuno. No, lei ha appena espresso giudizio, lei ha usato il verbo essere, ha dato delle merde, dei coglioni degli altri. No, sono merde, persone no. Che non la pensano, no, l'ha detto adesso. Ma dove? A sono chi? Persone che ma non chi? La pensano come ma lei. Chi? Ma chi? A quelli che hanno mandato le email. Ma questo chi? È una merda, questo no, è un coglione. Io non ho detto questo. Non mi prende in giro. Ma vada, ma vedi come risponde? Lei è un povero presuntuosetto invertebrato. Bene, e mi stupisco che una radio seria come quella di Confindustria abbia ancora delle persone come voi dentro. Ma non ho capito, che numero di tessera, scusa collega, non ho capito una cosa. In questa trasmissione, così come ha abbassato il telefono. Bravo, bello. Vabbè, non è in grado di reggere il confronto. Solo per dirgli adesso lo richiamiamo, il signor invertebrato. Certo, no, il signore che ci ha dato gli invertebrati, l'invertebrato. Perché un radioascoltatore come sa, ma io non, poi non ho pronunciato mai la parola merde, ma cioè... in questa trasmissione, per fortuna, la bellezza di questa genio, ho detto geni, non merde, ho detto geni, la gente può dire a noi quello che vuole, qualsiasi cosa, noi ribattiamo sulle idee, sulle cose, dov'è il problema? No, ma siamo alla follia, vabbè, ma come ognuno può pensarla come vuole. Per linciati, guarda, bisogna richiamare Fioravanti subito. Carmelo da Ravenna, no, buonasera, signor Carmelo. No, io lo chiamo stasera per conto mio a casa. Vada, Carmelo, dica. In effetti un piccolo crescendo manicomiale, la trasmissione le ragioni. Geniale. Manicomiale comunque... sì, lei ha ragione, un piccolo crescendo manicomiale, lei ha ragione, sì, perfettamente no, ragione. Prendiamola sullo scherzo. Io volevo fare una piccola dissertazione sulle dichiarazioni di Formigoni, no? Il Celeste, che si preoccupava che il governatore della Puglia era andato alla 15ª pagina, credo, che, del Corriere della Sera, e per lui, diciamo, è un fatto gravissimo. Mi viene da ridere perché mio padre, in effetti, un ex carabiniere, mi dice tuttora: intanto tu occupati di quello che hai combinato, non ti interessa se tuo fratello ha fatto questo, ha fatto quello, perché la vedo un po' una scusante puetile, siccome Nichi Vendola non l'hanno trattato allo stesso modo, ma tu occupati delle tue nefandezze. Tutto qui, dottor Cruciani, dottor Parenti. Va bene, Carmelo, grazie. Marco, provincia di Reggio Emilia. Pronto? Sì, dica. Buongiorno, sono l'ignorante Capra che prima mi ha mandato un messaggio. Sì, l'ho detto con amore, No, ma non mi sono... No, guardi, è fantastico stato. Non è quello il problema. L'ho detto con affetto. No, ma assolutamente. Zero problemi davvero, Cruciani. Non è scusi, qual era il suo messaggio? Me lo ricorda qual era il suo messaggio? Il mio messaggio diceva... che far parlare, far stabilire in diretta a un terrorista chi ha diritto a un dolore e chi non ha diritto a un dolore mi sembrava un po' troppo. Magari lo spiego un po' meglio, perché nell'SMS si... Lo spieghi, tranquillo. Indubbiamente una cosa era semplicemente questa la questione che volevo dire. Io non ne faccio una questione di terrorismo, tra l'altro se dovessi proprio essere portato alle estreme preferisco uno che ammazza per qualcosa in cui crede piuttosto che uno che ammazza per fare una rapina, ma... Guardi, questa però, qua, questa, lo sa che questa differenza, questa che ha creato del dolore, sì. Questo ha più diritto di arrabbiarsi per il dolore, questo ne ha meno. A me sembra, come dire, una roba che non ha nessun cazzo di senso. Non so come no, ma infatti, guardi, Parenzo a un certo punto gli ha detto: scusa, Fioravanti, ma come fai a dire che uno ha meno diritto di un altro ad avere dolore? Semplicemente perché gli è morta la suocera, uno gli è morto un figlio. Lui ha fatto questa differenza: chi ha avuto un figlio ucciso alla strage di Bologna ha in teoria più diritto anche a dire delle stupidaggini rispetto a un altro che gli è morta la suocera, peraltro questo, non direttamente nella strage di Bologna, ma, Luciani, ma tempo dopo. Ma questo è anche probabilmente umanamente comprensibile. Non sto discutendo di questo fatto. È chiaro che se mi muore il figlio è peggio, che è più straziante che se mi muore la trisnonna, lo capisce viva Dio chiunque. Il problema è che guardi, in ogni caso allora il problema fondamentale è uno, non può dire un coglione come lui. Allora guardi Marco, al di là del coglione o non del coglione, è molto semplice il ragionamento. Quando si chiama una persona, richiamate quello che ci ha dato gli invertebrati, dice che non vuole più parlare, parli se ha coraggio, però parli, si confronti, non faccia il quello che butta giù il telefono semplicemente perché c'è battaglia qui, semplicemente perché si discute in un certo modo. Richiami ci ha dato gli invertebrati, richiami signore degli invertebrati, ci confrontiamo, numero tessera tot, pare che prima stesse dicendo il numero della tessera da P2, numero tessera tot, chi se ne frega. Marco, allora no, il punto è molto semplice. Allora, quando si chiama una persona, piccola lezione per il signore di prima che ce l'ho di invertebrati, quando si chiama una persona, non per dopo due secondi farla arrabbiare e farsi buttare giù il telefono, qualche volta può anche succedere, la si chiama insomma per cercare di fargli dire delle cose che non vuole dire, punto e basta. Questo è il dato fondamentale. Dopodiché Parenzo gli ha detto: scusa, come fai a distinguere tra uno che gli è morta la suocera e uno che gli è morto il figlio? E lui ha detto: no, ma io non... Insomma, adesso è inutile che sto a riepilogare quello che è accaduto. Io capisco anche la giustificazione che ha dato, perché umanamente ci sta. Il problema è che non può dirlo lui. Ma neanche umanamente ci sta. Comunque ma non me ne frega niente dell'umanamente. Cioè... Tanto che non ci sta neanche umanamente. Volevo dirle che io non è che giudico quello che ha detto, se si può giustificare un dolore o non un altro dolore, non lo giudico neanche, non mi interessa, non è un problema. Non può dirlo lui, secondo me. Questa è la mia opinione. Ma non può dirlo lui, scusi, io se ho l'opportunità, io ho fatto un libro su Cesare Battisti, cioè si figuri quanto quanto mi possono piacere i terroristi. Dopodiché, se ho l'opportunità di sentire una persona su una cosa, che faccio? Non lo sento. Assolutamente. Abbia pazienza, volevo sapere se è vero o no che aveva concesso questa intervista e se aveva detto quelle frasi su bolognesi. Abbiamo ottenuto lo scopo che... Aspetti un attimo! Allora, abbiamo ottenuto lo scopo era questo, ed effettivamente è venuto fuori che ha che praticamente, anche se poi non lo ha confermato, che queste frasi sono state dette, perché la pensa esattamente come il contenuto di quelle frasi che sono state riportate oggi da alcuni siti. Ha capito o no? Che abbiamo raggiunto lo scopo. Da quel punto di vista. Basta, solo questo, no, ma che devo fare? Questo. Devo rimproverare fino avanti per la storia che ha avuto, ma che cosa me ne frega a me? È sotto gli occhi di tutti che è un assassino, un terrorista, no? Che ha ammazzato della gente. No, ma non mi interessa a me. E allora, basta. Il problema è che, secondo me, gli si poteva semplicemente dire che forse lui, il titolo, non so come si possa dire, per stabilire qual è un dolore giusto, un dolore non giusto, non ce l'ha, basta, il resto andava tutto bene. Vabbè, ma noi abbiamo il compito di trasformare il vero pensiero delle persone, siano essi mostri, siano essi persone che hanno delle cose da dire, che hanno rappresentato nemmeno nel male qualcosa. Se non stiamo qui a tirar fuori questo, ma che stiamo a fare? Buonasera, mi chiamo Francesco Pontelli, tessera giornalista 078283. Lei è un povero presuntuosetto invertebrato. Ma non erano due gli invertebrati? Ma solo a me ha dato l'invertebrato? Beh sì, ma perché non chiamiamo, scusi, ci abbiamo dato giù. Lei è un povero presuntuosetto invertebrato. Qui si è bloccato, che ha fatto? Pensavo chiamava la Mambro anche. Adesso lei è un povero presuntuosetto invertebrato. Ma così è, scusa, sentiamo ancora? Lei è un povero presuntuosetto invertebrato. Ah, ecco. Noi comunque siamo ancora qui, siamo ancora qui presenti, siamo ancora... Siamo ancora a casa, amo! Siamo ancora qui noi. Siamo ancora a casa, Simo. Sì. Ci vogliono abbattere tutti, 80024. No, è molto grave però, scusa, cosa, questa cosa, cosa? Attacco. Aspetta, che aspetta, 80024, Domenico da Roma, buonasera. Domenico, voglio risentire più avanti, anche, e anche Francesca Mambro. Domenico. Sì, Domenico, anche dico. Francesca Mambro. Niente, volevo dire, vabbè, ma sta parlando. Posso? Dica. Vado, allora vado. Niente, io volevo dire che vi sento da parecchio tempo, però devo dire che l'unico vero giornalista che ho sentito fino ad oggi, sì, è questo vostro collega che vi ha dato addirittura il numero della tessera. Sì. Siete realmente degli invertebrati. E adesso, dopo che ho chiuso, potete continuare anche a offendere me. No, aspetta. Lei chiamaci. 061911, tessera numero 061911. Ma che dai la tessera? Io manco la trovo. È tre giorni che non trovo più la mia tessera. Vabbè, comunque, caro Domenico, torni al microfono, non faccia il cretino. Ha voluto fare la sua intemerata dicendo siete degli invertebrati. Bravo. Facciamo un applauso, vai, facciamo un applauso a Domenico. Bravo, bravo, bravo. Rosanna da Firenze. Però scusami, a questo punto è molto importante chiamare sia Francesca Mambro che Giusto Fioravanti. No, no, ma che c'entra? No. Sì, per continuare l'intervista. No, dici facciamo una cosa così. Sì. Sarebbe molto utile perché qui mi pare che ci stanno dando lezioni inutili. Sì, sciocche. Sì, bravo, bravo, bravo, sì, bravo. Rifacciamo il numero di Fioravanti. Rifacciamo il numero di Fioravanti. Rifacciamo sì. Subito il numero di Giusto. Sì, continuiamo sì, l'intervista. Sì. Proprio sì. Nel merito delle questioni. No, no, il numero di Fioravanti. Sì, rifacciamo il numero di Fioravanti. Per rispondere a questi ascoltatori, rifaccio il numero di Fioravanti. Oh. Quello che è stato condannato per la strage di Bologna. Voglio rifare il numero di Fioravanti in diretta. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, lo vogliamo fare. Diciamo, guarda, queste tue parole hanno scatenato un putiferio, ci stanno attaccando. Ciao, spieghiamo che sono più avanti cosa è successo. Spieghiamo. Sì, sì, no, assolutamente. Rifatemi il numero. Cambiate canale, cari amici. Cambiate canale se volete. Sì, verrete espulsi anche dalle giovani. Tra poco alla Zanzara torna Giusto Fioravanti e forse anche Francesca Mambro. Tra l'altro il giornalista il giornalista, no, che le ha dato dell'invertebrato non ha neppure capito, scrive un altro giustamente, che era stato un altro ascoltatore che aveva dato delle merde a voi, non noi, Mi ha scritto tra l'altro una mia, sì, amica, che dice Cruciani ha detto Fioravanti e io ho pensato al nuotatore. Sì, no, anni. Giustamente, no, giustamente. Ma noi facciamo le cose così al volo, senza pensarci, non è che diamo spiegazioni, sì, prima, Giulia. Non è che facciamo gli elenchi. Scusami Valerio, siamo sempre noi. Scusami, siamo sempre noi. Ciao. No, si è scatenato un putiferio qui perché chiamare Fioravanti alla radio per qualcuno significa ci hanno detto dovete essere espulsi all'ordine dei giornalisti. Giusto, sono d'accordo. Fate, in che senso? Come, scusa. D'accordo? Come sono d'accordo? Come sei d'accordo? I radicali sono per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti. Vabbè, quello pure io che c'entra, quello pure io. No, no, volevo sapere una cosa. No, si è scatenato un putiferio pazzesco perché non abbiamo elencato tutti i tuoi crimini. Certo, capito? Certo, perché bisognava dire prima di intervistare una persona, allora ha commesso questi crimini, eccetera. No, senti, c'è un'altra cosa che voglio chiederti, che è questa. Ma quando tu dici c'è andata di lusso per Bologna, no? Sì. Qual è il ragionamento che c'è? Che è un paradosso, nel senso che io e Francesca abbiamo ammesso una serie abbastanza lunga di reati, sì, dei quali non si parla mai. Sì. Si parla solo di un reato che per fortuna molte, sì, persone intelligenti e molti osservatori ritengono che noi non abbiamo, vabbè, fatto. Altri, quindi, invece, altri più sentenze, vabbè, dicono di sì. Il paradosso è che a forza di ragionare su una cosa, noi abbiamo più amici di quelli che meriteremmo, ma per merito di Bologna, nel senso che Bologna ha tanta gente, sì, non ha convinto, e quindi noi alla fine da 30 anni stiamo discutendo di un qualcosa sulla quale tutto sommato ci sentiamo forti, perché gli elementi a nostro, sì, discarico, sì, sono veramente forti. Cioè, e tu dici, fortuna, le persone si sono dimenticate dei nostri crimini, dei nostri, esatto, assassini, per eccetera. Per fortuna non veniamo chiamati a ragionare di cose sulle quali effettivamente sarebbe più difficile dare delle giustificazioni, delle cose sbagliate che abbiamo fatto davvero e che sono più imbarazzanti da un punto, ecco, di vista. Ecco, un altro ascoltatore dice, un altro ascoltatore dice invece che come fa Fioravanti a distinguere il dolore di uno che ha perso la suocera da uno che ha perso il figlio? Non può dare un giudizio sul tipo di dolore? Ha ragione sul tipo di dolore, ma difatti io non giudico il tipo di dolore, così come nessuno può giudicare il mio dolore dell'essere accusato ingiustamente da 30 anni. Io faccio una riflessione su quali sono i motivi che impediscono a 30 anni e più dai fatti di riflettere serenamente. Ma cosa vuol dire riflettere? Io sospetto, ma che vuol dire, Giusa, riflettere serenamente? Cioè, qui vabbè, c'è no, ma lui contesta la sentenza. Della magistratura. Uno, cioè, allora, la mia riflessione è, allora, difficile. Finché noi stavamo dentro, si diceva non confessano perché sennò non escono mai. Noi siamo usciti, tra l'altro Francesca è uscita quando il ministro di Grazia e Giustizia era Giovanni Maria Flick, uomo io sono uscito quando il ministro di Grazia e Giustizia era Diliberto. Dopo che siamo usciti, vabbè, non è che decidono loro, adesso siamo usciti, vogliamo per favore riaprire la discussione su un processo vecchio di 10 anni? Vabbè, alcuni possono dire ci sono le sentenze definitive, eccetera, eccetera, però lasciamo perdere questo argomento, non la voglio affrontare. Sono passati altri anni, la pena l'abbiamo addirittura scontata, la pena è finita. Il tribunale di sorveglianza si è riunito in camera di consiglio e 3 magistrati hanno deciso che la nostra pena è finita, ai sensi delle leggi vigenti e della Costituzione vigente. Appena scontata, io ogni tanto con garbo provo a dire: signori, io adesso non ho più niente né da perdere né da guadagnare. Paradossalmente sono l'unica persona in Italia che non potrebbe venire ricondannata per la strage di Bologna, solo io e Francesca, tutti gli altri 60 milioni di italiani paradossalmente potrebbero temere qualcosa da una qualsiasi Senti, un altro ascoltatore. Adesso che la pena è scontata, vogliamo per favore con calma riflettere senza lanciare anatemi, senza buttare. Ma questo qua è un tuo diritto farlo, per carità, è un tuo diritto. Un altro ascoltatore dice: scusami, tu non puoi dire io soffro come quelli che hanno perso i parenti, perché tu sei qui a parlare. L'ascoltatore dice pontificare, gli altri invece sono sottoterra, sono dolori diversi. Se uno ha passato tanti anni in carcere, per carità. Un'altra cosa è quando tu parli di servizi segreti deviati, dici non si può parlare di servizi segreti deviati, che è pure un ragionamento interessante, perché tu dici servizi segreti sono deviati per definizione sono deviati. Perché penso che sia una di quelle cose stupide che vengono ripetute a pappagallo e che fa male ripetere a pappagallo. Si deve riflettere. I servizi segreti entrano in ballo quando c'è qualcosa che non può essere fatta per via regolare. Voglio dire, è una cosa un po' ci porterebbe ampia. Ci porterebbe un po' lontano come ragionamento. Ci porterebbe un po' più ampia, però la mia lui dice servizi segreti. No, però è interessante perché deviati, però si dice che non rispondono, per fare dire cose che non sporche, lui dice, per fare cose sporche. Il servizio segreto risponde mai davvero ai magistrati, no? Lo vedi che quando c'è qualche cosa di un po' scandaloso tirano fuori il segreto di Stato e si trincerano. Voglio dire, ai magistrati dicono quello che si può dire. I servizi segreti non sarebbero servizi segreti, non avrebbero la collaborazione dei colleghi esteri se ogni volta che li chiama un sostituto procuratore dicessero tutta la verità. Ma questo voglio dire, non è che lo dico io, è quasi la palissiano, tutti, no? Ci sono delle cose che loro non dicono e fare tutte queste urla sul fatto che sono deviati, secondo me allontana la riflessione da argomenti più seri. Va bene, grazie Valerio. Grazie a voi. Grazie. Allora, Fabio da Roma, buonasera. Buonasera, signori Luciani e Parenzo, do del lei perché potrei risultare antipatico poi. Ma non si preoccupi, faccia quello che vuole. Tra il lei secondo tema. No, intanto per rimanere in tema, mi piacerebbe sapere se Giusto Fioravanti si è pentito di aver lasciato la carriera di attore. Dopo malizia. Questa è una cazzata, comunque. Fabio, lei lo sa. Lotta armata. No, però piacerebbe anche sapere che col senno del poi dopo 30 anni. Ma vede, il problema è che Fabio, scusi. Cosa vuole Fabio, ma scusi un attimo, abbia pazienza. Noi l'abbiamo chiamato su una cosa molto precisa, su quello che lui avrebbe detto, anche se lo ha poi praticamente ammesso, in un documentario sulla strage di Bologna. Punto e basta. Sì, punto e basta. Vabbè. non per fare ha avuto la possibilità di la possibilità di replicare manco per niente, perché non c'è da replicare a nulla, ha detto delle frasi e le ha praticamente confermate, punto e basta, cioè per cui non c'era da replicare a niente, cioè non c'era una polemica su queste frasi. E infatti secondo me distinguere tra il dolore di chi ha perso una suocera e di chi ha perso un figlio è sbagliato, e gliel'abbiamo detto, punto e basta. Cosa vuole che le dica di più? Invece il mio intervento era per voi, cioè nel senso che per lei, Parenzo, il casello di Carinzia, no? Noi ci vogliamo sbellicare, no? Allora, intanto dov'è il casello di Carinzia? Credo che sia vicino a Torino. Vicino a Torino, sì. Però alla fine poi, invece di sbellicarci, ultimamente state facendo arrabbiare un sacco di gente. E vabbè, uguale. Forse anche la vostra formula, no? Poi magari anche la formula... Ogni tanto ci si incazza, ogni tanto si ride. Certo, voi magari pensate che comunque è quella vincente, però io vi vorrei sentire anche dopo l'estate, cioè nel senso, poi magari un po' di stress adesso c'è, un po' di disaurimento, poi magari dopo riuscirò anche a sentirlo, però... Chissà, effettivamente, come vi hanno comunque rivolto delle critiche tante persone, cercate un po' di ascoltarli, cioè nel senso che effettivamente guardi, le critiche delle persone che chiamano e le critiche delle persone che scrivono vanno benissimo, per carità, ma rappresentano una parte infinitesimale del tutto, infinitesimale. Okay, no, è importante perché è quello che va in onda, naturalmente, ma è una parte infinitesimale del tutto. Certo, perché comunque, vabbè, voi siete insomma intelligenti, Parenzo purtroppo ha un ruolo un po' così secondario, non riesce a esprimersi. Dopo l'estate si vedrà. Caro Fabio, la ringrazio. Un'altra cosa, perché sono di Roma, questa è una mia curiosità. Ma lei da ragazzo, siccome io sono di Roma, ho qualche anno in più di me. Ma lei da ragazzo era simpatizzante dell'MSI? Ma no, assolutamente no, Fabio. No. La ringrazio. Vabbè, comunque un po' di reverenza verso Bocchino, eccetera, mi sembra di averlo capito. Ma quale reverenza verso Bocchino? Cioè, reverenza verso Bocchino, a parte che Bocchino... Diciamo di quelli della sua... Insomma, della mia che? No, di Bocchino, cioè nel senso... Ma non c'ho nessuna reverenza, le reverenze nei confronti di Bocchino. Alleanza Nazionale, eccetera, eccetera, perché insomma mi sembra che non sono state guardi fatte. Ho attaccato più volte Bocchino quando ha rotto con Berlusconi per i motivi che aveva addotto. Ah, che ero io quello che lo difendeva. Lui difendeva Bocchino, io lo attaccavo, lo ricordo benissimo, poi ci siamo un po' riconciliati con Bocchino, ma insomma non c'è nessun tipo di vicinanza, non si preoccupi Fabio. D'accordo. Io non sono amico di nessuno. Più incisivi più incisivi con i politici. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Realmente degli invertebrati. Adesso, dopo che ho chiuso, potete continuare anche a offendere me. Ma questi che ci danno degli invertebrati, e noi siamo ancora qui, eh? E noi siamo ancora qui. Sei ancora a casa, Emo. E noi siamo ancora qui presenti almeno fino al 3 agosto a combattere. Poi dopo si vede che ci succede, però. Poi vediamo, insomma, no, il 27 fino agosto lo dobbiamo dire, il 27 comunque siamo il 27 qui, con la bandiera a tenere il fortino mentre tutti ci assediano, ma noi ci siamo, amici della Zanzara, ci siamo, non ci assedierete mai. No, non ci sconfiggerete mai, assediarci ci assediano. Ah no, è vero, ti scusi. Hai sbagliato. Vabbè, comunque. Ivano da Padova. Allora, io ripeto, quelli che ci danno degli invertebrati, però devono richiamarci, è troppo comodo, dici, sei un invertebrato, sì, tu e che? Su, dai. Mamma mia, come siete seri poi. Ivano. Sì, buonasera. Intanto voglio farvi i complimenti per la trasmissione. Averne di invertebrati come voi. Comunque, volevo soltanto rivolgermi a Parenzo, che ho sempre stimato fin da quando lavoravano tali qua Venete, che alcune volte però le sue provocazioni credo scivolano nell'eccessivo, tipo in questo caso parlando di Fioravanti quando diceva ex terrorista oppure signor Fioravanti, mi sembra un po' troppo. Ex non sarà mai un ex terrorista, ma io credo che rimarrà sempre per tutta la vita terrorista. Sì. Guarda signor, forse un punto di domanda potrebbe essere valido, e per quanto riguarda che lui fa il volontariato fa bene a farlo, non potrebbe fare altro, se si è pentito buon per lui, però diciamo che non è che si può cancellare quello che lui abbia fatto. Ma guarda, ma che, nessuno... guardi che Parenzo non ho, forse l'ha sottolineato un po' troppo spesso, cioè, chi? Tu. Certo, all'inizio, all'inizio hai detto intanto complimenti per quello che fai, chi se ne frega, complimenti. Ho detto siccome, ma per che me vuol persone, dire, ho capito, ma non c'è bisogno di fare a chi t'ascolta. Ma non c'è bisogno di fare i complimenti, né tantomeno di Fioravanti, che ho incontrato una volta sola all'associazione Nessuno Tocchi Caino e di cui non so nulla, mai frequento, non me ne frega neanche niente. Io però valuto le persone, cioè la signora, il signor Fioravanti è stato condannato, ha fatto il carcere, ora è un'altra persona, il giudizio su di lui per me rimane lo stesso di prima, cioè è stato un criminale, è stato un assassino, ma siccome non sono il giustizialista con la bava alla bocca come voi spesso immaginate, capisco che anche le persone, uno, cambiano, due, ora fa dell'altro, verrà sempre chiamato a parlare di questa cosa perché è stata la sua vita, il marchio gli rimarrà, ma anche lui avrà diritto a essere trattato come una persona, visto che ha scontato la sua pena. Fine della, eccomi il senso della, della, anche del ricordo, sì, di quello ho che ho capito, fa però oggi, siccome lui, tu l'altro giorno cambiano, sì, d'accordo, però l'altro giorno tu non volevi nemmeno stringere la mano al signor Fiore. Certo, non volevi stringere la mano al signor Fiore. Ma io neanche a Fioravanti stringo. Ma cosa ci vuole? A parte che il signor Fiore continua a fare, a fare le scelte ed è per me un neonazista. A parte questo, a parte che Fioravanti di oggi non è il Fioravanti, non è il Fioravanti degli anni 70, degli anni 80. Degli anni 70-80, non è quel Fioravanti lì, il Fioravanti di oggi, quindi gli riconosco anche un percorso che lui ha fatto, ma non toglie quello che i crimini che ha commesso. Ma come si fa a non capire una cosa simile? Ma questo è come chiaro, questo è chiaro. Antonio, a Fioravanti, a quell'altro non stringo la mano, certo, al neofascista di Forza Nuova mi permetto, lo intervistiamo, lo invitiamo quante volte, ma non gli stringo la mano, ma c'è una contraddizione secondo te, non mi pare? No, non lo so, io non avrei detto complimenti per quello che stai, che fai. Oggi alla, è una persona che ho lavora. Capito, ma non c'è bisogno di fare i complimenti perché uno lavora a Nessuno Tocchi Caino, in questo senso. È un'associazione meritoria. Ma chi se ne frega, ma non devi fare i complimenti. Vabbè, ho capito, non hai capito. No, invece il senso dimostra della critica è questo. Tu, quando, ho capito, hai detto una cosa, no, esponiti anche alle critiche. Quando dici, infatti, quando fai i complimenti, complimenti per quello che fai, perché per uno deve dire, oggi, per ma perché complimenti? Perché complimenti? Chi se ne frega col merito, col punto della questione? Vabbè, perché bisogna sottolineare che le persone anche cambiano. Bisogna sottolineare, vabbè, prezzo. Sottolineano, ma non era può il caso di sottolinearlo. Personaggio come? Non era il caso di sottolinearlo, secondo me, andandoci a riflettere, c'è, cioè, punto. Per carità, va bene, per carità, io invece riconosco il lavoro meritorio. Ho capito, ma stiamo parlando di una questione che non ha nulla a che fare con Nessuno Tocchi Caino. Vabbè, non hai capito niente. Ma non è vero, non è vero. Non ha nulla a che fare. Allora, quando tu dici complimenti per questo o quest'altro, non ha niente a che fare con l'argomento di cui stiamo parlando, che sono delle frasi pronunciate da Fioravanti. Punto, per cui, cioè, fai un complimento perché lavora a Nessuno Tocchi Caino. Di mi cui espongo alle critiche, di ma cui lavorato alla comunità di Sant'Egidio, se ne poteva fare a meno, cose. Secondo me, detto questo, poi anche, cioè, se avesse lavorato alla comunità di Sant'Egidio, sì, lo so, ma lo so benissimo che c'entra, non stavo mica dicendo perché le persone sono, vanno anche contestualizzate, vanno rispettate per il, ma non c'entra niente in questo caso, sono due, allora, sono... bisognava ho capito, ma non Antonio, non mi dalla provincia di Monza, buonasera, buonasera, no, ma infatti no. Ciao, buonasera. Buonasera. In questo caso, guarda, sono d'accordo con Parenzo. Cioè, ma chi se ne cazzo fotte di Fioravanti? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma veramente facciamo finta che sia normale parlare di Fioravanti all'alba del ventunesimo secolo? A Cruciani, per piacere. Non ho capito Parenzo nulla. Ha tutte le ragioni del mondo a dire quello che sta dicendo. Ma lei ha bevuto? Non ha capito niente di quello che ho detto. Io ho bevuto e ho una canna in mano, tanto per dire. No, ma mi pare chiaro, però. Mi pare chiaro. Ah beh, sì, però a me pare anche chiaro che lei, che parla di Fioravanti in questo modo, beh, allora ha bevuto e ha fumato anche Parenzo. Mi scusi Cruciani, sa. No, scusi, io non ho capito bene. Ma fumo da 40 anni e bevo da 40 anni. Non sono rincoglionito. Non è, no, che può venire lei a dirmi, oh Cruciani, non beve, non fuma. E Parenzo beve e fuma, ma Fioravanti, come ne stavate parlando in questo modo? Beh, lei è meglio che stia zitto, deve stare zitto, e forse è meglio che incominci a fumare e a bere. signor Cruciani, perché cazzo, tra l'altro mi scusi, partita, scusi la veemenza, mi scusi la veemenza, perché io, Davide, è partita, arrivederci, ma certo, va bene, mandate me, va, chi se ne frega, va bene. Non si faccia la veemenza, perché stato, ma anche almeno un cracker, io... che così le si, mette, le si ferma qualcosa nello stomaco con tutto quell'alcol dentro. No, ma chi se ne frega, ma con tutto quell'alcol, 40 anni che bevo e fumo, Parenzo, per piacere, vedono, possono arrivare in ambulanze, non c'è problema, va bene, dai, facciamo così, la vogliamo mettere così, va bene, vi ringrazio Cruciani, ringrazio Parenzo, arrivederci. Va bene, sì. Salutami così, scusate, è la prima volta che vi parlo, questo è il saluto. Antonio, scusi, ma noi siamo costretti a mandare i signori in camice bianco. No, mi scusi, Cruciani, non mi sembrava di aver detto una cosa al di fuori dell'argomento che stavate trattando. No, ma non ho proprio capito, non ho capito niente, cioè, non io nulla. Mi scusi, le ho detto solamente una cosa. Cosa? Le ho risposto a quello che mi diceva, lei ha bevuto e le ho detto sì. Ha fumato e le ho detto sì. Appunto, ecco, dico. Va bene, appunto, ma quello che le ho detto rispetto a Fioravanti, mi scusi, se voglio riprendere quel discorso, e mi ha fatto tra l'altro... Ma riprende il fiasco di vino, no, il discorso? Riprende il fiasco di vino. Ma mi scusi, ma mi scusi, Ma cioè, non si rende conto dello stato? No, io voglio sentire Parenzo. Cioè, Parenzo stava dicendo una cosa, io gli stavo dando ragione. Ma no, non ha capito quello che... Ma non ha capito quello che stavo dicendo, ma è evidente perché non l'ha capito, perché è in uno stato confusionale. Ora arriviamo, facciamo una piccola flebo, credo che dovremmo fare 4 litri almeno, visto l'ultimo stato. Una piccola eroina, Cruciani, ma cosa sta dicendo? Ma veramente il delirio. Cioè, forse voi avete più fumato o bevuto. Vabbè, oh, senta, io mi appoggio solamente a Parenzo. E ma quello che stava difendendo prima, ma la querela per diffamazione, si dice che ho ragione, ma per carità, ma non dica che ho ragione, perché la querela per diffamazione, per carità, ma chi se le dice che ha ragione lei? Io sto dicendo che aveva ragione Parenzo, non Cruciani, mi scusi, ma qui veramente, ma chi ha fumato? Ma forse è il caso di dirottare le ambulanze a chi di dovere, mi scusi, Cruciani, forse lei ha bisogno di una flotta di ambulanze. Sia tranquillo, sia tranquillo. Ma io sono tranquillo, ma lei continua su questo tono sulle ambulanze. Mi fa dire una cosa oppure dobbiamo chiuderla con l'ambulanza? Chiudiamola con l'ambulanza. Ma sono 5 minuti che cerco di capire. Sono 5 minuti. Ma mi scusi, lei mi interrompe sempre. Sto dicendo solamente che di Fioravanti che cazzo vuole dire? Vuole parlare di Fioravanti come se fosse una persona normale? Ma solo lei parla di Fioravanti come se fosse una persona normale? Ma che cazzo sta dicendo? No, Parenzo, è meglio che si faccia sentire, perché se anche Parenzo mi manda le ambulanze, in questo caso è un coglione. Ma la smetta di dire il mio nome, mi sta danneggiando, nello stato in cui è lei mi sta danneggiando, la smetta di fare il mio nome, la querelo. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Antonio, comunque si tranquillizzi, stia calmo adesso. Ma sono calmissimo, ma lei è un agitato di prima super, senza fumare e senza bere, tra parentesi. Beh sì, è devo proprio, dire. Ha una fortuna inaudita, lo assicuro. Un po' sì. Lo assicuro, è una fortuna inaudita. Un po' sì. È da 1000 anni che è così, fuori di testa, senza fumare, senza bere, ed è fuori di testa. Parenzo, che pensavo che facesse uso di sostanze psicotrope, ma come, quantomeno per la normalità delle persone, ma probabilmente come lei, è solo, perché in questo caso non lo sento, ma Parenzo, ci sei? Mi scusi, ma la puoi smettere di pronunciare il mio nome? Ti querelo, mi stai danneggiando. Ma che cazzo, ma querela, ma chi se ne frega? Ma non ho capito, ma ti sto offendendo? Ma Parenzo, stavi parlando di Fioravanti? Ma senti cosa stavi dicendo di Fioravanti? Risentilo in condizioni normali da lucido. Non capisci. Sei tu da lucido? Aspetta un attimo. Pinuccio? Pronto? Ciao Pinuccio. Sì. Ciao compagno, come stai? Come stai? Io sto bene, ma c'ho il problema di formigoni da risolvere. Cioè, non ho capito, scusa. Stai al telefono con formigoni? Eh Sì, e voi mi chiamate sempre nel momento opportuno. Ieri, scusate, rimanete un attimo in linea. Sì, che sì, qui, sì, qui, sì, sì, vai, vai. Sempre in linea bisogna rimanere, no? Pronto? Casa Formigoni? C'è Roberto? Pinuccio sono, grazie. Beh, veloce. Robertino, Pinuccio sono, saputo, saputo. Sono con te, sono con te. Io l'ho saputo proprio adesso. Stavo stendendo la roba, le mutande di Nicky che ieri si è cacato sotto. Senti, Roberto, vabbè, che devi fare? Devi andare. Ma il problema è il viaggio. Io te lo dicevo, facciamolo a giugno, che cosa di meno, e troviamo solo i turisti tedeschi. E adesso, ad agosto, come dobbiamo fare? Io ho pensato, il biglietto tuo, vediamo se lo giriamo all'amministratore di condominio. Eh sì, che si è separato con la moglie. Loro avevano la multiproprietà e lui non può andare quest'anno. Eh sì, facciamo venire lui, mi raccomando. Poi tu vai dai giudici, di che non sapevi niente. Il problema è stato, io ho cambiato tutti i documenti in Formigotti, ho cambiato tutto. Eh sì, proprio stamattina dovevo venire a cambiare il citofono pure, il nome, combinazione proprio oggi. Vabbè, tu tanti processi sono lunghi, tu di che non sei niente, mi raccomando, tu continua così, il viaggio, noi ti aspettiamo, male male, prendi uno yacht e vieni e ci raggiungi, il biglietto quindi lo cambiamo. Eh sì, vabbè, mi raccomando, stai su, non stare giù, che tanto si sa, tu dai la colpa ai giudici, non ti preoccupare, poi gli italiani si dimenticano di queste cose. Aspetta che sta Sabino che ti vuole dire una cosa. Sabino, vuoi dire qualcosa a Roberto? Che figura di merda, Roberto! Sì, vabbè, no, ha detto che mi raccomando a parlare con i giudici. Va bene, me Roberto, dai, noi ce ne andiamo in vacanza e ti mandiamo una bella cartolina. Mi raccomando, stai su. Ciao e tante cose. L'ambulanza va. Pinuccio! Compagni, ho questo problema. Pinuccio, io non ho mica capito. Pinuccio, non ho capito, ma ogni volta che ti chiamiamo sei al telefono con qualcuno, ma come diavolo è possibile? Vabbè, io sono un faccendiere di lavoro, quindi insomma ho contatti con tutti e quando posso aiutare gli amici li aiuto. Ma in adesso, questo caso, scusa, cioè, il Bisignani, sì, della Zanzara, sostanzialmente il Bisignani della Zanzara. No, il Bisignani di se stesso, no, della Zanzara. No, prendiamoci le responsabilità. No, scusami un attimo, però io voglio capire una cosa, siccome non sentiamo la voce dei Formigoni, qual era l'argomento di discussione? Più o meno l'ho capito, le vacanze, no? Sa come mai? Ma noi avevamo già prenotato le vacanze, sono tutte a nome suo i biglietti. Come dobbiamo fare adesso se viene arrestato? È un problema. Vabbè, arrestato adesso, ti sei portato un po' avanti, ma se l'è presa? Secondo me se si veste come si veste di solito, lo arrestano subito, appena lo vedono. Ah, dici. Infatti, e tu saresti un amico suo. E saresti pure, sì, un amico. E vabbè, agli amici uno un consiglio, diciamo arancione e verde, come si è vestito l'ultima volta, gli danno l'ergastolo, sicuro. Infatti siamo... Eh sì, vabbè, voi ridete, non so problemi. Vabbè, però ho capito, io ti voglio trovare una volta al telefono che non sei con qualcuno. Ogni volta che ti chiamo sei stavolta con Formigoni. È un problema mio, è un problema della politica. Se sono sempre al telefono. Dici, ogni volta ci sono casini, dici, no, problemi, cose. Mai con Napolitano, però, per fortuna. Mai al telefono col Quirinale. Beh, no, e Giorgio è sordo, e quindi ultimamente lo devo vedere per forza di persona. Sei ancora a casa, Emo? Mentre la città finalmente sa che mostro sei. Tu pietà non hai. Splendido un ascoltatore. L'ambulanza. Senti, la Zanzara. Aspetta che c'è notizia qui, aspetta. Oddio mio. Piazza del Popolo. Salve, scusi, cosa pensa della trattativa Stato-mafia? I magistrati devono andare avanti. Ah, grazie. Allora, questo cittadino abbiamo sentito? Ma non si è sentito niente. Come? Non si è sentito nulla. No, davvero, aspetta un attimo. Scusi, salve, buonasera. È la Zanzara. Cosa pensa della trattativa Stato-mafia? Stato-mafia. Ok, va bene. Dice che i magistrati devono andare avanti. Non è vero, non si è capito nulla. È un attacco vergognoso fatto in fuori bingo. Hai sentito cosa ha detto, no? Vabbè, proviamo a chiamare Villa Wanda, sì. Un ascoltatore fantastico. Manca solo Villa Wanda adesso. Cianci, la trasmissione, dove si chiamano? Ciancimino, il signor Fioravanti, Villa Wanda. Manca solo il mostro dell'Ocles. A questo punto abbiamo fatto tutto. La Zanzara, tutto legale, senza bere e senza fumare. Stupendo. Aspetta, che rispondi tu. Sì. Pronto? Pronto? Pronto? Niente. Venerabile? Pronto? Carlo da Foggia. Venerabile? Ci manca, solo, manca solo Venerabile stasera. Carlo, dica. È il mostro di Loch Ness poi, ovviamente. Carlo. Buonasera, buonasera. Sì, prima che mi chiuda la telefonata vorrei dire due cose praticamente. Lei è sempre il solito che usa 9 schede. 10 schede telefoniche, un altro matto questo. Ascolti però quello che le devo dire. Allora, innanzitutto mi ha fatto impressione il fatto che lei ha dato del tu a... È vero, è vero. Oppure è vero. Ha un debole per Fioravanti? No, no, non ho nessun debole e non lo conosco. Sei sempre molto attento al fatto di che... No, se lei... No, allora, se lei ci fa caso... è stata una piccola gaffa sua. Perché... Ma no, ma non è una piccola gaffa. Io nel 20% dei casi utilizzo il tu, nell'80% utilizzo secondo lei. È una deformazione intellettuale sua. Secondo me lei ha un debole un po' per Fioravanti, ma figuriamoci. Per quello che rappresenta lui. Certo. Sì, che programma di merda è il vostro, perché non me ne andate? Ci scrive uno, stupendo. Seconda cosa che vorrei sottolineare è che Fioravanti, se lei non l'ha capito, e in questo lì sbaglia come, ha sbagliato come giornalista, ha detto, ha affermato, cioè non ha... È arrivato Carlo da Foggia. Da Foggia, certo. Sì, Carlo. Non ha lei è un falsario, lei lo sa, Carlo, sì. Lei è un falsario. Lei è un falsario, lei è un falsario. Si presenti, si presenti con il nome vero. Lei è un falsario. Ma che querela? Querela mia nonna, lei. Lo so, lo so. Allora, mi faccia finire la seconda cosa. Dica, dica falsario, lei è un falsario, Allora, se lei non l'ha capito che lo sta prendendo in giro a lei e a Parenzo e a tutti e a tutti coloro che ci credono. Fioravanti, il fatto che si impegni in Nessuno Tocchi Caino, secondo me, è una maschera, è un tentativo suo per rifarsi una vita. Perché uno che veramente ci crede in questa trasmissione non avrebbe mai affermato che il signor Bolognesi non può parlare in quel modo perché ha perso solo la suocera. Che cazzo significa ha perso solo la suocera? Ma su questa ha ragione lei, su questa ha ragione. Infatti è stato oggetto della mia domanda. Secondo me tutto quello che sta facendo oggi, Fioravanti, è tutto falsato, è tutto meno. Va bene, grazie Carlo, lei è un falsario comunque. Francesco da Verona. Chi c'hai accanto? Chi c'hai accanto? Beh, una notizia bomba perché in chi c'è? Aspetta. Aspetta. Pronto? Sì? Sì, buonasera, Villavanda? Sì. Cercavo il dottor buonasera, Parenzo. Avevamo un appuntamento telefonico con il signor Gelli. Parenzo gli dica. Come si chiama lei? Parenzo? Parenzo, ho detto quella città dell'Istria, quello che siamo stati. Parenzo, un appuntamento telefonico 2 minuti aveva fa. Aveva un appuntamento telefonico? Sì, chiedo scusa per l'orario, ma avevo appuntamento 10 minuti fa, poi ho avuto un imprevisto perché è arrivato qui il dottor Cavaliere De Bersti e non sono riuscito a fare la telefonata. Cioè aspetti De Bersti, un attimo, parli più lentamente e più forte perché non si sente a proposito. Sì, no, l'appuntamento era 10 minuti fa, poi al dottor De Bersti se mi ho slittato a la telefonata. Pronto? Quindi chiedo scusa. Dottor Gelli? Sì? Ah, venerabile, buonasera, è la Zanzara. Buonasera. Come sta intanto? Abbastanza bene, mi dica tutto. Prego Giuseppe, volevamo sapere questa cosa del mozzicone di sigaretta, della strage di Bologna, ce la può dire, ce la può spiegare bene? No, non posso. Senta, allora io sono qui, ho qui delle persone, mi chiami domani mattina. Sì, a che ora, scusi? Ma vedo un po' verso le 10:30. 10:30, eh? Grazie, venerabile. Comunque la bomba alla stazione fu solo un mozzicone di sigaretta. Va bene. Saluto. Domani mattina alle 10. Arrivederla. Grazie. Buona riunione, Buona riunione, venerabile. Con gli amici. Grazie. È una cosa. Va bene, dottor Gelli, era il dottor Gelli. Ah, ecco qua chi abbiamo. Chi c'è? Buonasera, la trattativa Stato mafia. Che ne pensa lei? No, I don't know. Come? No, but I'm not from here. Ah, quindi ha ragione in groia, no? Sorry, ha ragione in groia, no? Perché ride? Stato mafia, trattativa. I don't know. Venus from here. Ecco, praticamente la gente dice che c'è un assedio a Ingroia. Questo ha detto la signora. È uno straniero che ha detto: come? Non sono di qui. No, questo no, ho capito. Ho capito male. Francesco, lo vuoi beccare un italiano, però no. Francesco da Verona, buonasera. Comunque, queste sono inchieste che meritano lo stipendio che prenda, perché voglio dire. Francesco, dica. Sì, buonasera Cruciani. Innanzitutto volevo dire che considero la vostra trasmissione una trasmissione di varietà che mi rende meno pesante il viaggio di ritorno dal lavoro, quindi la prendo come una trasmissione leggera. Anche al limite della genialità, può dire, se vuole. Ecco, sì, al limite della genialità. E tra l'altro volevo dirle che lei è diventato insopportabile e forse questa è la ragione per la quale l'ascolto ancora di più. Mi fa molto piacere. La chiave del successo, presumo, della vostra trasmissione. Vabbè, adesso non stiamo facendo l'esegesi della Zanzara questa sera. No, ma non è questione di esegesi. No, così mi viene in mente Abbraccio. Tra l'altro sono molto divertito perché sono già intervenuto un'altra volta, dopo Gelli, la volta precedente Borghetti, quindi questo per me è motivo di grosso divertimento, cioè Francesco tra Gelli e Borghetti, insomma, per me è una questione di puro divertimento. E comunque le volevo far notare un elenco di ospiti recenti o passati, eccetera, Sgarbi, Corona, Borghetti, Giovanardi, tutti diciamo Cicchito. Cicchito, tra l'altro su Cicchito volevo farle notare una cosa. Lei a Cicchito ha chiesto l'altro giorno, mi pare, cosa ne pensava di avere come vicino di al Parlamento, alla Camera, al Senato, non ricordo, Pasini o... No, veramente non è così, perché Volpe Pasini non è parlamentare, insomma. No, se lo può trovare in Parlamento. No, adesso non mi ricordo il nome. Vabbè, allora... chiesto, cosa ne pensa del fatto che prossimamente potrebbe avere come vicino alla Volpe Camera... Volpe Pasini, probabilmente, ecco. Per cui ha dato già per scontato che Cicchito sarà già sicuramente... Ma che ne so, ha dato per scontato, detto se no, dovesse... è una deformazione, cioè per capire il livello, il concetto che abbiamo di democrazia in Italia, per cui si sa già chi ci sarà... Chi, ma non è così. Francesco, grazie. Carlo da Bologna, buonasera. Buonasera, volevo dirvi che siete bravi, ma state usando il peggior modo possibile per farvi pubblicità e soprattutto siete fuori luogo come rappresentanti in un giornale che fa della serietà la sua, il suo biglietto da visita. Questa è la radio comunque, Radio che lei è la radio, lei di uno di uno nel peggior modo possibile. Sì, di uno radio, di uno radio. Assassini, ladri e delinquenti. Sì, di uno radio. Siete il peggior modo che rappresentate per rappresentare il nostro paese, mi dispiace. Beh, questa è stupenda, siete il peggior modo per rappresentare il nostro paese, come se noi dovessimo rappresentare il nostro paese. No, lo rappresentate perché voi parlate tutte le sere agli italiani, ma lo rappresentate veramente in modo pessimo, uno peggio dell'altro. Uno peggio dell'altro. E prima o poi li lasceranno a casa, giustamente. Sì. Ma troverete posto in altre radio. Certo, non c'è dubbio, Carlo. La ringrazio. L'abbraccio fortissimo. Ci dobbiamo lasciare, E ci sentiamo. Purtroppo ci dobbiamo lasciare stasera. Devo dire. Ma domani si ricomincia a battagliare, No, 20 secondi, datemi 20 secondi. Dai, Dario da Monza, su. Mi tiro una pietrata, Dario, mi tiro una pietra. Leonardo, pronto? Provincia. Sì, dica, veloce. Buonasera, mi chiamo Francesco Pontelli, tessera giornalista 078283. Sei un povero presuntuosetto invertebrato! Ah sì, ho capito. A domani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sei ancora a casa, Simo? Radio 24. La passione si sente.